Guardati un film e porno e non sfruttare la tu donna. Tu li vedi film porno, Mauro? No, una, mi aveva regalato tre o quattro un vecchietto, però mi avevano annoiato, li ho dati a un ragazzo. Più porno lo guardi, no? No, no, no. Non ha tempo, per carità, non ne frega niente. Ma no, preferisco farlo che guardare. Cos'è che ti eccita di più di una donna? Il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera, volevo chiedere a Parenzo, ma tu una sessantenne l'hai mai scopata, Parenzo? Questa è buona come domanda, ma dipende a che età, no, naturalmente. Che no, no, allora, caduta linea, pronto? Cellulare, no, caduto, no, in acqua, incominciare, pronto, non pronto, incominciare pronto a fare il cinese. Dottore, dottore, dottore, dottore un cazzo! Dottore un cazzo! Posso schiltare e venire anche 7 di 8 volte in una sola notte, senza nessun problema. Oh, bello! Guarda che io per la sposata scopavo 5-8 settimane, ma cosa ti credi? Oh! Pronto? Pronto, signora? Ma lei è la signora Esther? Sì! Quando lei parla alla radio devo spegnere perché le dice talmente grosse. Scusi, ma lei? Ma lei non abita? Lei ce l'ha sempre con gli immigrati, con gli... è meglio che si tappa un po' la bocca. Comunque io vi seguo perché voglio sapere tutti questi termini sessuali che possono aiutare la convivenza. Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali, maiali. Caro Parenzo, proprio in questi minuti, in questi istanti, si sta celebrando, una cerimonia. Oggi vediamo di ridere. Aspetta, perché sono depresso oggi. Allora, si sta celebrando una cerimonia. Leggo su un giornale locale, tale giornale di Vicenza. Beh, sì, no, di Vicenza. Certo. Allora, a 72 anni c'è un annuncio oggi, anniversario, sì? Anniversario. Di chi? 28 aprile 45, 28 aprile 2017. Anniversario. Una scritta in latino, in nobis presens semper, per che carità. Significa che significa in nobis presence, cioè sempre presente sempre, in noi, sì, esattamente, sempre presente nei nostri cuori, diciamo, esatto, no? In noi. E c'è, la scritta è questa: a 72 anni dalla a 72 anni dalla dipartita di foto del signore in questione, sì, sua eccellenza cavaliere Benito Mussolini, il poi c'è una sigla di scusa, un comitato, mi è partito, non ho capito che sì, la pernacchia, sì. Sua eccellenza cavaliere Benito Mussolini. Va bene? Questa comunità, questa organizzazione, questo movimento, club, movimento ricorderà lui e i suoi combattenti oggi alle 18:30, cioè ottimo, è iniziata da qualche minuto. Dove? Recitando un santo rosario per con padre Floriano Abramovic. Beh, avvisiamo la polizia, facciamo una retata unica, non c'è neanche da nell'area fare esterna c'è anche la localizzazione precisa. Area esterna antistante cimitero maggiore di Vicenza. Cimitero, beh, bene, facciamo una retata lì unica. Vicenza, ce ne saranno 30 fascisti subito. Vicenza, chiamiamo. 28 aprile 2017. Chiamiamo subito e facciamo una retata. Aspetta, allora, vediamo se rispondono. Vuole fare una retata no, di quattro coglioni. Adesso chiamo l'avvocato e chiamo la polizia e facciamo la retata di questi. In un colpo solo li becchiamo tutti quanti, capito? Mi pare si possa fare, vediamo se rispondono. Ma che c'entra l'avvocato? Polizia, adesso? Cosa c'entra l'avvocato? Se chiamare ma cosa la polizia? C'entra? Sì, sì. Se è un reato, questo. Chiamare la polizia per avvertirla. Sì, no, adesso. Avvocato? Ma che cosa fa questo? Quando ma serve? Che cazzo ne so. Non c'è mai. Vabbè. Adesso comunque li chiamiamo. Allora, ragazzi, stanno attaccando, direi, in maniera vergognosa questo procuratore di Catania. No, che anche tu lo stai attaccando in maniera Zuccaro, vergognosa. L'ho detto ieri. Ieri Zuccaro. Ho detto intervenga il CSM. Cosa è successo oggi? È intervenuto il CSM. Oh, sì. Vuol dire che il CSM ascolta la zanzara. Non succederà un cazzo. Non succederà un cazzo. Questo Zuccaro, questo tal Zuccaro, tal. Io adesso non vorrei che poi lui mi portasse in giudizio. Catania, perché sai, a Catania. Tal Zuccaro, Zuccaro. Ha detto, vabbè, che le parole sono importanti, aperte virgolette, le ONG forse finanziate dagli scafisti, le finalità potrebbero essere quelle di destabilizzare l'economia. Tutto forse. Ci scusi, sono le prove? No, beh, ancora no. E allora di che cazzo parli, caro signor pubblico ministero? Di che parli? Devi trovare prima le prove, poi formulare un capo di imputazione e quindi eventualmente chiedere un rinvio a giudizio. Questo dovresti fare, caro signor PM, anziché sputare sulle organizzazioni non governative che fanno quello che lo Stato non fa. Stanno attaccando in maniera vergognosa questo magistrato. Ma chi? Quale? Tutti. Ma perché quando i procuratori, che parlano sempre di qualsiasi cosa, attaccano, Berlusconi, sinistra, come la Boldrini e altri, non dicono una parola, applaudono i magistrati. Adesso che un signore, un timido signore catanese, si permette di andare in televisione. Con te? Lo candidate? Ma che c'entra? Lo candidi? Quando Zuccaro, un signore Zuccaro dice... cos'è? Capolista in Catania della tua lista? No, di noi con Salvini? Ma che c'entra adesso? Che cos'è, dai, Zuccaro? Ha semplicemente de Zuccaro, si chiama, non Zuccaro. Carmelo Zuccaro, certo. Allora, questo signore qua si è limitato a dire che le prove, purtroppo, se leggi bene le cose che ha detto, le prove non le possono utilizzare perché sono intercettazioni di 007, di servizi segreti. È così. Non metterti a ridere, così ha detto. Ci sono delle prove che non si possono utilizzare. La procura di Catania ha delle ipotesi di lavoro, la polizia giudiziaria, lui ha detto, non ci ha ancora consegnato le prove. Di che parla? Intanto stia zitto, perché è ancora in fase di... Ma non si è mai visto, non c'è da niente Berlusconi, si è mai visto che un magistrato che sta raccogliendo delle prove lo farà dopo, semmai quando ha formulato il capo di imputazione va in televisione e comincia a dire questo, quello che già questo adesso non dovrebbe fare. Devono fare quelli precisi, magistrati. Quando si trattava di altre cose, parlare in libertà. Ma non fare il tuo l'autonomia solito casino della magistratura. Ma guarda che sei l'autonomia. Un personaggio. Adesso gli volete fare un culo così a questo qua. Ma guarda che sei disonesto. Forza, sei. Zuccaro, eccolo. Non mollare. Eccolo. Ma non cosa molla? Molliamo. Ma non molliamo chi? Tu chi? Cosa sui dici traffici tu? Indegni del Mediterraneo. Ma che ne sai? Di ma di questo hai già fatto la sentenza? Ma che sai? Ma che dici? Qui si tratta di uno che sta ancora cercando le prove. Io questo contesto. E lasciatelo lavorare in pace. Ma è lui che parla. È lui. Parla, è Zuccaro che parla. Prima certo, ancora che di avere le prove. Che no, guarda, su questa cosa oggi mi trovi preparato. Sì, e preparato. Anche perché mi girano i coglioni per altri Sentiamo motivi. Di Maio, totalmente o incazzato. O Di Maio, io come Di dici Maio tu? Non lo voglio sentire. Vado di là da Barisoni. No, Di Maio, io certe stronzate non le sento. Vado di là. Ciao, chiamami quando sei. Vai. Non lo voglio sentire. Sentiamo Di Maio. No, vado via. Senti la porta. Zuccaro lancia un allarme gravissimo. Ma esco. Ma se lo mandi, io esco. Mandami un messaggio. No, mandami un messaggio quando è terminato Di Maio. Ah, sì. Sembra che le dichiarazioni del procuratore di Catania lancino un allarme gravissimo. Noi abbiamo un procuratore che ci dice: io ho le certezze di rapporti tra scafisti e alcune ONG, ma non posso utilizzarle come prove. Vogliamo andare fino in fondo, ragazzi. Io su questa cosa qui non me ne frega niente. Lo farai in maniera strumentale, ma sono assolutamente dalla parte di Di Maio, attaccato da tutti come se fosse un pezzente, come se fosse un irresponsabile. Sì, totalmente. Come se fosse un irresponsabile, come quello perché che vuole mettere perché in discussione le vite umane del Mediterraneo. Te lo spiego io, ma perché dai, non è riuscito. Di non Maio, è riuscito. Siccome Di Maio ha preso una topica, pazzesca, dai. Cioè ha commesso un errore, ora deve tenere il punto e difendere Zuccaro, che è indifendibile un altro, in questa cosa. Su Twitter mi scrive Cruciani sempre più schierato a destra, più a destra di Salvini. Ma ormai non c'entra a destra, ragazzi, c'entra, non c'entra la follia. Niente. Qui è chiaro che qualcuno chiama queste ONG, le quali faranno anche un lavoro, non c'è nulla di provato, apprezzabile. Ma come no? È tutto. Li chiamano, no, momento, li chiamano, questi momento qua li prendono nelle loro barche. Non è stato dimostrato e li portano alcun in Italia traffico di denaro. No, stai dicendo delle... Comunque, sentiamo ancora, certo, è un dovere salvare le persone in mare. Lo fanno le organizzazioni non governative laddove non arriva lo Stato. Fammi di concerto con la Guardia Costiera, peraltro. Vai a Lampedusa, vai. Mamma mia, io però veramente non ce la faccio cambiare più. Cambiare, che cos'è? Vogliamo andare fino a fuoco. Fammi sentire Di Maio che con mi piace la Guardia Costiera. All'attacco. Voglio sapere fino in fondo queste navi dove si spostano, dall'allarme che viene da Frontex e dall'allarme che vengono dai procuratori, e vogliamo andare fino in fondo. Allora, altra balla, nessun allarme di Frontex, aspetta un attimo. Andate allora, a vedere il documento, ce l'ho qua. Ieri, Piazza Pulita, un trafficante. Me l'ha mandato Manconi, ce l'ho qua. Allora, il documento ieri, ufficiale. Un trafficante. Tu sei trafficante di menzogne. L'unico traficante, sei tu che stai trafficando menzogne. Piazza Pulita. Ma ecco, fai Piazza Pulita, intercettato, bravo. Hanno intervistato un trafficante, sì, certo, il quale l'ho visto, ha detto bellissimo. Lo scafista contatterà l'ONG italiana, una tale Nawal Sufi. Senti tutto. Non strumentalizzare, senti. Hanno fatto una inchiesta approfonditissima quelle lì, altro che zucchero. Senti. Ma posso stare tranquillo? La barca è sicura? Tranquillo, lo scafista ha una bussola, un GPS e un telefono satellitare. Ha anche il numero di telefono della signora Nawal. Lei lavora per una ONG italiana. Lo scafista la contatta dalla barca e le fornisce le coordinate. Così lei avvisa la Guardia Costiera italiana. Allora questa Nawal conosce lo scafista? Sì, quando lei riceve una chiamata dal satellitare sa che è gente che si trova in mezzo al mare. Ragazzi, ma mi sembra tutto abbastanza chiaro. Questi lo faranno pure in buona fede, ma è evidente che questi trafficanti, per essere certi che i signori migranti arrivino in Italia, cosa fanno? Chiamano questi qua, così li prendono e li portano là, punto e basta. Cioè, nessuna contestazione nel merito dell'operato in mare è stata avanzata dall'agenzia europea. Vabbè, ma chi europea? Se ne frega, dai, la fronte, che cazzo me ne frega, ma dai, no, la Boldrini, perché tutto parte la Boldrini, anche da quello, ma non me ne frega ragazzi. Niente, la Boldrini, questo è un fatto, però grave irresponsabile, fake news grave fake news. Responsabile gettare ombra sulle energie. La signora Boldrini, Boldrini. Che, no, contro il magistrato, naturalmente, no? Salvare le vite in mare è un dovere. Chi non lo fa commette un reato. Certo. Ora, gettare un'ombra su tutto questo mondo a me sembra veramente irresponsabile e molto grave. Se ci sono delle responsabilità vanno circostanziate, vanno esplicitate, ma gettare un'ombra su tutto è veramente qualcosa che a mio avviso deve essere respinto. Allora, lo stesso fatto che la Boldrini si sia espressa contro questo magistrato, lasciato solo in questa battaglia per la verità, perché sta cercando di scoprire quello che succede nel Mediterraneo, è semplicemente perché ha detto qualche parolina in più, qualche parolina fuori posto, no, ha detto che non ha le prove. Dopo che i magistrati per anni hanno detto quello che hanno voluto in tutte le televisioni, in tutti i giornali, adesso fanno un culo a questo perché non ha detto una parolina in più su questo traffico nel Mediterraneo. Parla, dai, di un'inchiesta in corso di cui non ha neanche le prove. Vi dovete chi non ha, ma perché sei un propagatore di fake news? Non ma ho capito. Che propagatore di fake news? Fake. Ma quale fake? Non ha lo ha detto lui. Fai risentire l'audio di ieri, ti prego. Fai sentire o chiamo la procura perché stai falsificando. Fai risentire l'audio di questo zuccaro, non so, zuccotto. Fai risentire il nome di questo zucchero. Cosa ha detto? Falli sentire. Tanto becca del traffico. Cruciani, manda il traffico che devo fare un pompino. La Zanzara. Se vi stupite del urlo della folla quando si dice Librandi, ma provate a dire Parenzo, ma 90 minuti di insulti. Voci da Verona della Lega. Senti. A casa mia prendo quello che ha dei documenti, volendo. Quelli senza documenti non lo voglio. Sono tutte balle che scappano. E quelli chi scappa, come lo definirebbe? Ma perché tutti in Italia devono venire. Ma chi scappa, come lo definirebbe allora? Un vigliacco. perché deve stare a casa sua a combattere. Un approfittatore viene qua per essere mantenuto. Viene qua a farsi mantenere. Un profugo. Ma quale profugo, che non sono profughi ancora, ditemi in chiate. Ho Mussolini qua. Ah, dov'è che è? Eccolo lì. Dov'è? Ah, qua, questo qua, Mussolini. Ah, ma lei vedo che è di onore e fedeltà, quindi lei è fascista. La parola fascista non mi piace. Sono figlio di Mussolini. Sono dei vigliacchi, degli stronzi che non vogliono fare un cazzo, perché sennò a casa loro difenderebbero il territorio. Qua stiamo facendo dei buonismi, del cazzo stiamo facendo dei buonismi. Allora, per piacere, questi sono invasori, per me andrebbero buttati a mare, punto. Poi puoi tenerteli, tienteli a casa. Io spero che queste cose non succedano, perché sennò ti dico la verità. Io vado già al tirassegno, da tanti anni comunque, perché avevo degli amici. Certo, ho imparato, visto che ho fatto il militare, ho imparato a sparare. A sparare gli esseri umani. Se è necessario, sì. Il popolo della Lega, il popolo della Lega radunato a Verona. Certo, non è il popolo di Sant'Egidio, questo è sicuro. Sicuro. Ragazzi, comunque la cosa eccezionale. La procura di Catania, stai attento perché stasera ti tengo, per le per sì, i capelli. Sì, senti. Perché su questa roba qua non si discute, sì, ma che non Zuccaro, si discute, sì. Zuccaro ieri sera. No, parliamo solo di fatti, poi critica. Sì, sì. Zuccaro ieri sera è stato costretto a dire: "La procura di Catania ha delle ipotesi di lavoro che non sono al momento prove, neppure quella sul loro finanziamento." Forse allora, non hai capito, ha parlato di prove che non posso, che ci sono ma non possono essere utilizzate. Non possono essere utilizzate, sì. E perché non possono essere utilizzate? Le perché ONG, come sai, nella procedura penale evidentemente non sono prove utilizzabili. Favoriscono ma se i non sono prove utilizzabili è un ossimoro, vuol dire che non puoi utilizzarle neanche nel processo, no? Ma allora, di che parli? Intanto ti dico che in realtà Macron a 17 anni fu esiliato da Parigi dai genitori che erano furiosi. Infatti c'era una donna di mezzo con tre figli che mollava tutto per stare con un suo alunno. Però i genitori di Emmanuel Macron, entrambi medici, decisero di non sporgere denuncia per corruzione di minore. Vabbè. La madre affrontò Brigitte, che aveva quasi la sua età, le disse che l'aveva già avuto la sua vita e che non avrebbe nemmeno potuto dare figli ad Emmanuel. Le chiese di lasciare stare suo figlio, almeno fino alla maggiore età. Brigitte, la vecchia, rispose che non poteva promettergli. La vecchia. Il marito di Brigitte se ne andò di casa, le tre figlie, ex compagne di classe di Emmanuel, restarono con la madre. E lui dice: "Un giorno io ti sposerò." Infatti l'ha fatto. È tutto favoloso, ragazzi. Bellissimo. Non ci trovo niente di male io. C'è grande amore, non bello, ci trovo niente l'amore di male. Alberto dalla provincia di Frosinone, dai. Sì. Dimmi. Sono in onda? Sì, dimmi. Sì. Sì, fino a prova contraria sei in onda, sì. Senta, intanto mi piacerebbe essere uno dei radioascoltatori che riesce a lanciare invettive nei confronti del principe della demagogia che ha seduto accanto. E mi riferisco naturalmente al dottor di chi Parenzo. Parla? Di chi parla questo qui? Vabbè, dai, vai al sodo, no, su Alberto, vai. Guardi, le do andiamo tutti avanti, i miei riferimenti. Sì, ma vorrei semplicemente stigmatizzare un comportamento da parte del principe demagogo di assoluta ineleganza, di bassissima risma. Ottimo. Cioè, ma si può fare una pernacchia non appena si nomina una persona, sebbene sia stato nel bene e nel male? Cioè stai parlando della pernacchia storico. Mussolini? A Mussolini, esattamente. Guardi, basta fare il nome, io non so cosa succede, ma basta fare no, il nome, guardi, Parenzo, scatta in automatico. Sono un avvocato, ma non c'è bisogno di fare questi scherzetti per scatta dire che la pernacchia non l'ha fatta lei, eccetera, eccetera. No, certo, ma si ma rende l'ha fatta conto, io, ma basta fare il nome, conto, scatta in automatico, è un tic, guardi, mi porti in tribunale, è un tic, è documentato. Senta, sono guardi, allergico ma ai che fascisti. Che gliene frega lei, Alberto, se ha fatto la pernacchia, non ho capito. No, no, a me, no, intanto a me, come a tantissimi altri, per esempio, può aver turbato basta non pronunciare quel nome, non la faccio. Se lei lo pronuncia, ma guardi, ho un certificato del medico. Non pensa che in questo momento all'ascolto ci siano persone di cui ha ferito dei sentimenti o dei ricordi. Adesso non esageriamo, eccetera. Dai, su. Ma no, come non esageriamo? Ha fatto una pernacchia. Ma per esempio almeno i familiari, per esempio. Ma dai, ha fatto una pernacchia a nome di Mussolini, non è che la fa... Scusami, ho il certificato medico. Cioè il medico mi ha scritto un certificato dove mi ha scritto che sono... posso farlo? Perché... Avvocato, Gerardi, davvero? Sono esente. Ho stima. Ma chi è che fa l'avvocato? Lui è avvocato, questo signore che chiama. Lei sa, siccome lei mi pare uno scienziato, mi pare un buono stipendio. Io non credo che riesca a far ridere qualcuno. Non fa ridere, è una patologia la mia. Anche questo di una scuderia. Sono allergico al fascismo. Ho un certificato medico. Ci sta conducendo. Ma qual è il problema? Se lei mi porta in giudizio, è scriminante come lei sa. Siete così bravi a dare spazio a chiunque, basta non fare quel nome. Rappresentare un momento così di caduta di stile, di eleganza, ecco, perché in questo momento ci saranno persone abbiamo raccontato un semplice fatto molto piccolo, che alcuni signori capitanati da un prete molto fascista, e oggi si sono recati, in questi minuti sono ad un cimitero vicino a Vicenza, non so dove, per rendere onore al signor Mussolini. Pernacchia di Parenzo. E c'è il medico, c'è la ricetta del medico, c'è scritto, c'è la cosa. Patologia di Parenzo, odia i fascisti. E che deve fare? Guardi, lei comunque è scriminante. Non è il ruolo. Se mi porta in giudizio, ho il certificato medico. È scriminante. Sono scriminato perché ho il certificato medico. Se lei fa quel nome, io sono autorizzato dal medico. Lo dovrebbe avere veramente, ma anzi, qualche volta anche un TSO andrebbe prescritto. No, adesso, ma basta non fare quel nome lì. Molto ma tu vuoi veramente chiamare la polizia per far arrestare quei signori che sono lì? Non sto ho capito. Verificando legalmente. No, ecco, parliamo più seriamente. Sì. Veramente. Parliamo seriamente. Facciamo arrestare queste 40 persone adunata sediziosa. Apologia di fascismo. Si chiama apologia di fascismo e adunata sediziosa. Apologia di fascismo. Adesso chiamiamo la procura. Chiamo la polizia. Chiamo la polizia e vediamo. Ad essere un sedicente illuminato e illuminante in alcuni casi. Chiama la polizia. Dai, chiama la polizia. Chiamiamo tutti. A livello di idiota in questo modo, non lo so, io non lo so veramente. Io dico, guarda, io sono molto educato soltanto quando vuole riesce a sono molto educato in genere. Oppure tenere basta non pronunciare quel nome e ho il certificato medico. Sentimenti oppure memorie, sentimenti. Attenzione, Mussolini. L'anniversario della morte di Mussolini. In questi giorni invece scorre qualche cosa che riguarda questo personaggio. A chi se ne frega? Alberto, è l'anniversario della morte di Mussolini. Esatto. Ragazzi, allora, certificato medico. Guido da Salerno. C'è il medico che l'ha scritto. Pronto? Ciao Giuseppe. Dimmi. Giuseppe, io volevo raccontare la mia esperienza con la MILF, la Cougar, come le vogliamo chiamare. Vabbè, perché? Che cosa ci devi raccontare di tua esperienza con MILF, Cougar? Mia moglie è più giovane di me, ho avuto molte ragazze più giovani di me, però mi devi credere, il rapporto più bello sessuale, la più bella scopata che ho avuto nella mia vita è stata con una 52enne. Beh, 6 anni fa. Sei al top. Io solo che ci penso mi eccito di nuovo. Ma quanti anni avevi? Quanti anni avevi, scusami? 6 anni fa avevo 32 anni, lei aveva 53 anni. È stato in macchina, quindi non era anche una condizione, diciamo, comoda, ideale, sì. Però è stata lei sposata magari, no? Sì, lei era sposata, sì, io mi sono sposato adrenalina dopo 1000, mesi. No? Adrenalina sì, 1000. Bellissima. Ah, tu sei mesi dopo di essersi sposato? Sì. Cioè sì, eri fidanzato? Sì, ero fidanzato, mi dovevo sposare, mi sono sposato, naturalmente mia moglie non sa niente. Ma ho capito, non sa niente, adesso perché stai parlando? Magari ti sento. Vabbè, comunque è stata un'esperienza, ma sai perché? Perché la donna dopo i 50 anni sa che inizia a sfiorire, il fisico diciamo inizia a essere un po' più decadente, quindi entra in competizione con le ventenni. Cioè lei vuole affermare facendo sesso di dire sono ancora giovane, mi sento, sono attraente, piaccio ai ragazzi, quindi... Fermo lì. E come mai le navi spengono il transponder quando sono vicine alla Libia? Mi suggerisce un ascoltatore, Parenzo. E come mai, come mai? Ciao. Ed è venerdì. Crucia fino a notte. Non mi rompete i coglioni. Sono veramente disgustato da quello che conducete. È una radio veramente seria della Confindustria. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone. La Zanzara. Allora, volevo raccontare la mia esperienza. Ascolta, andavamo a scuola all'alberghiero, non sapevamo che fa, mentre uno che va a scuola nelle città, va in giro per le città, piancia, non c'è incazzo. La mattina ho letto in giornale, c'era l'annuncio della puttana. Era 2002-2003, quindi sui 15-16 anni. Eravamo in 5-6, chi ce va, ce l'ha fin giocato a carte, la puttana, e mi ha toccato a me. Insomma, niente, mi immaginavo una bella biondona, entro, era una signora sui 55 anni, distinta, perché a Chianciano, mentre le donne tedesche andavano a farsi curare il fegato, i maschi vivono a puttane, so, 6.000 persone, 4.000 saranno puttane, capito? Insomma, niente, ero contento per una volta che vinco a carte, addirittura invece che vince un pacchetto di puttane, ho vinto una puttana, entro e c'era sta donnina dei 55 anni. E n'era messa manco male, però purtroppo, capirei, a 16 anni, ti ritrovi davanti una donna dei 55 anni, te posso dire una cosa, lei l'ha presa molto, non si fece problemi. E, insomma, niente, io monto lì, lei mi monta sopra. Sarà contenta la tua fidanzata, ma perché perché non venivo, ma lei capiva che io mica venivo perché ho delle dote, venivo perché mi sembrava strano vedere una che poteva essere la mia nonna sopra di me, capito? Sì, il grande scontro andato in onda ieri sera tra Maurone da Mantova e la signora Esther. Il grande scontro, possiamo dire, Parenzo, una nuova puntata di Forum Immigrati. Di Forum, sì, Immigrati, può essere, con sì. Una vittoria della signora Esther, che rappresenta in questo caso, come dire, la parenzianità, la vera e propria parenzianità. Io l'ho ribattezzata la forza tranquilla. La forza tranquilla, Mitterrand, certo. Sì, la forza tranquilla della ragionevolezza, teoria, la forza tranquilla della ragionevolezza. Contro l'irruenza di Maurone da Mantova. Sì, la violenza, l'irruenza, l'insipienza. Ma l'insipienza adesso. L'insipienza totale, la malattia mentale, che definiscila come ti pare. Malattia. Ma perché poi torniamo sul magistrato, signor Zucchero. Sì, certo, però. Assolutamente. Torniamo, perché io aspetto che adesso mi quereli, signor Zucchero. Così finalmente avrà delle prove. Addirittura. Finalmente avrà delle prove. Ma perché tu vuoi far querelare da Zucchero? Che ti ha fatto? Un magistrato che sta indagando su quello che avviene nel Mediterraneo. Nulla. Ma che su come nulla. Si direbbe alla Zanzara, non ha un cazzo in mano. Nulla, dai, nulla. Smettila. Parole del procuratore di Catania, la procura delle ipotesi di lavoro. Lui stesso lo ha detto. Virgolettato, la procura di Catania ha delle ipotesi di lavoro che non sono prove al momento, neppure quella sui loro finanziamenti. Lo dice lui, ma allora cosa hai in mano se sta indagando? Che cosa hai in mano? Dice che non hai in mano niente ancora, ma che dici? Parla quando hai tutto in mano e hai formulato un capo di imputazione, no? Mauro contro Esther. Pronto? Pronto, signora? Sì. Ma lei è la signora Esther? Sì, ma io quando lei parla alla radio devo spegnere brava, perché le dice brava. Talmente grosse. Brava, signora Esther. Scusi, brava. ma lei che non lei ce l'ha sempre con gli immigrati, con è meglio che si tappa un po' la bocca. Ma no, io con gli immigrati, signora, li tratto bene, ci faccio il sapone, io con gli immigrati, quindi. Di gente come lei ne dobbiamo aver pochi, altrimenti sprofondiamo tutti. Ma meglio, ma che sprofondi lei? Tanto lei non conta un cazzo, è già vecchia! È già roba vecchia! Ma come vecchia? Ma io sono vecchia, come cosa viene? Io sono vecchia, canto, parlo, per tutto quello che deve fare, ma anche se sono vecchia. Ma però non ho tante cose da farle imparare. Sono stati sfrattati! Devo vado a dire chi è stato sfrattato! Gli italiani in macchina e gli immigrati clandestini all'hotel! Ma non è fuori culo, vecchia di merda! Ma gli immigrati... Sono persone che scappano dalle guerre. Bravo. Ci saranno anche lì delle persone, dei delinquenti, come ci siamo in tutto il mondo ci sono. Mauro, come rispondi, Mauro? No, come rispondi? Peccato, però, che ci hanno rubato la bicicletta, era un negro di merda. Ma quale peccato. Ma che c'entra? Ma cosa è successo quel negro lì? Ma che c'entra? Bicicletta, ma cosa è successo? Ma perché protegge i negri, no? Ma guardi, sono neri, sono bianchi, sono tutte persone. E tu se lei, senti, non so sotto, se lei ha un figlio, ma senti, un padre deve augurarsi che un, senti, figlio l'altro, non sia nei panni di, senti, quel l'altro, povero ragazzo, senti, lì, come latra l'altro, senti, la, senti, la, la, la, te li prendo a casa sua, ecco, a casa sua, come non latra, qua, ma senti come latra. Ma scusa, non ti piacerebbe incontrare? È uno della tua età, potresti avere anche una storia voi, ma due. Signore, la signora non ha il gusto dell'orrido, per fortuna. Signora, le garantisco, le garantisco che se lei attraverso la sala, che si trovi con la macchina, gli vado dopo e faccio la retromarcia per paura che resti viva. No, ma non solito esagerato. Chicco, Chicco. Allora, Gennaro da Caserta, andiamo con Gennaro, vai, vai, vai. Ti diverti a fare sti spaccati, tra Mauro e Esther, è vero. Vai Gennaro, vai, vai, vai, forza. Senti, no, comunque ti volevo dire, no, sì, è vero che forse io non è che sono un simpatizzante di Mussolini, però ti volevo dire semplicemente che ha fatto delle alleanze un po' sbagliate, però ha fatto anche tante cose buone. Ma che c'entra? Paese... Cosa ha fatto di buono, signor Mussolini? E cosa ha fatto? Le famose vabbè, ma adesso perché stai parlando di Mussolini? Spiegami, perché il 28 no, aprile, perché cosa? Perché, no, Parenzo, perché Parenzo ha fatto le pernacchie? A Parenzo ci devo mettere il tappo, ci metto il tappo in culo. No, se vabbè, Gennaro, ho un permesso del medico, il medico mi ha scritto che siccome sono antifascista ho questa cosa qui che posso fare la pernacchia, posso fare la pernacchia, quando lei pronuncia quel nome sono autorizzato dal medico, perché ho questa, a fare la pernacchia. Sotto a fare le pernacchie. Ma cosa ti caga sotto? Cosa? Ma se vuole fare le pernacchie, perché tanto le fa con la bocca, caso, le fa col culo, è la stessa non cosa. È ben educato lei. Non le faccio a caso. Perché non è così. Le tu faccio solo al di dietro. Bravo, Gennaro, sì, qual perfetto è il punto? Non ho capito. Le perché faccio hai chiamato? Solo quando si pronuncia quel nome. Perché per insultare. Ti volevo dire che comunque i picchi di economia che si sono raggiunti durante il periodo mussoliniano in Italia poi non si sono più raggiunti, no? Bravo, pernacchi, che fa? Attenzione che ti capisci. Trombetta. Il medico me l'ha detto, il medico ha detto. Ah, posso farlo? Io sono quel Gennaro lì che ti dicevo che ogni volta che nominavo il Parenzo potevo andare anche fuori a Montecitorio, abbassarmi i pantaloni e andavo Gennaro, di corpo. No, sì, ma se vai là davanti a Montecitorio e vai di corpo ti arrestano immediatamente. No, sì, sarebbe buono. Ma divento famoso domani. Ma famoso di cosa? Ma rendo famoso chi? Cosa? Di che parli? Di cosa stai parlando? Di cosa stai parlando? Ma tu hai le pigne in testa! Hai le pigne in testa! Hai le pigne in testa! Gennaro, hai le pigne in testa. Ma perché non è così, scusi, se fai le cose colorate, no? Ma cose poi, colorate di che? Tu sei malato di... Tu sei, purtroppo malato per te, sei malato di mente. Sei malato, malato di mente. Con le cazzate che dici in radio, tu la differenza normale è che a me mi pagano per dire le cose, a te no. Cioè tu stai lì. Ma sempre malato sei. Ma non lo so, te, ma fatto è una malattia voluta, sai perché? Perché tu te la fai venire la malattia. Sì. Gennaro, non ho capito, perché hai chiamato? Non ho capito, per fare un po' di cinema. Perché è così. Perché sei solo. Perché sei solo. No, che sono solo. Per sei un uomo solo. Sei un uomo solo. Per correggere un poco il culo di Parenzo. Che lo fa dalla bocca. Fabrizio da Milano, vai, stai zitto, vai, vai, via, via, via, via da Caserta, via Gennaro. Fabrizio da Milano, vai. Pronto? Dimmi, Fabrizio, dimmi. Pronto? Dimmi. Senti? Ti sento. Bro, ciao, Giuseppe. Allora, mettiamo da parte un attimo l'idiota che è a fianco. Io sono Fabrizio, il fascista da Milano, tutto tatuato. Ma chi è il fascista tatuato? Io. Che sì, vuol dire sì, fascista quello tatuato? Che ero tutto tatuato, ti ricordi che avevo già chiamato, vabbè. Amico allora, mio, ma adesso perché una volta mettiamo da parte ormai, hai visto come gli bruciano a tutti quanti adesso che stanno uscendo fuori le intercettazioni? Quale? Comunque sta uscendo fuori un po' la verità di questo invece, come si agitano tutti quanti. Quali intercettazioni sono uscite? I questo sommario di cosa no, parla? No, poco alla volta uscirà fuori su che cosa? Intercettazioni sono uscite? E poi sulla sua assenza di cervello, che cosa? Non ho capito. Tu sei un cagafotto. Ma chi? Perché come, no, all'idiota che hai a fianco, come ti sei permesso di fare la pernacchia? Perché non fai la stessa cosa quando chiama Alessandra Mussolini? E mentre quando c'è a fianco Alessandra Mussolini sei là che fai il cagafotto. Sul cognome sono. Chiamala, chiamala. Chiamala stasera Alessandra Mussolini e fagli la pernacchia. sei coglioni sotto, ma tu non è per il nonno. Tu sei un mezz'uomo, tu sei una mezza sega. Come te l'ho detto un mese ma fa. Ha avuto una giornata terribile lei? No, te l'ho detto un mese fa. Tu non ma lei ha avuto una brutta giornata. Anch'io oggi, sono contro i comunisti, pure l'ha non lasciato... mi permetto. Va bene, la fidanzata l'ha lasciato. Uno come Fidel Castro a fare le pernate. La fidanzata ha trovato la fidanzata a letto col suo migliore amico. Comunque, chiama ha avuto una giornata terribile. Fagli la pernaccia da Alessandra. Abbiamo già avuto una vita difficile. Lei ha avuto una giornata difficile. Mi dispiace che la sua fidanzata sia andata col suo migliore amico. Mi dispiace. Non ce l'ho di fidanzate. Si è visto per non forza. Ce l'ho, grazie a Dio, perché se no faccio la fine. Perché a me piace stare da solo, mi piace andare a Troie. Mi piace andare a Troie, questo faccio quel cruciariano. Cazzo che voglio. Questo hai capito? A me piace andare a Zoccole. Questo un giorno cruciariano. Brasiliano, un giorno io faccio quel cazzo vabbè, che voglio. Vabbè, ma che c'entra? Questo ecco, sì, no, sì. Io è pieno di gente che non si deve permettere. Ma perché no, vuole chiama, fare la pernacchia a Mussolini? Allora la faccia. Chiama Alessandra Mussolini. Ma che c'entra? C'ho il permesso del medico. Ma c'ho il permesso del medico. Ma il medico me l'ha scritto. Il medico ha scritto che siccome sono antifascista posso però, fare. Però scusa Fabrizio, se lui davanti alla parola Mussolini adesso il medico da pochi giorni gli ha detto bravo, che deve fare, esatto. Che deve no, fare la pernacchia. È una terapia. Non c'è un cazzo terapia, da dire, è una pagliacciata, è una cosa da verme, anch'io odio li brandi, ma se dovesse morire non mi metto a fare le pernacchie perché è una cosa vergognosa. Ma perché odi li brandi? Non ho capito perché. Perché è un coglione, ma come si fa? Li brandi appartiene alla razza di merda di lui, parento. Ma perché? Ma perché? Buonisti, comunisti, ma che li brandi, ma l'hai sentito anche con te? Li brandi, li brandi. Ma come si fa? Ma l'hai sentito anche con te? Uno che quando c'è stato al Monte Paschi di Siena che hanno portato via, a Banca Etruria, gli hanno portato via i soldi a una vecchietta, gli diceva la vecchietta di 80 anni. Ma che c'entra lui? Stai zitta bene, perché tu hai giocato in me, è un coglione, ma si può, noi ci facciamo governare da Librandi, poi diciamo perché l'Italia signor va male. Librandi, come cazzo si anche chiama? Anche tu che c'hai il duce tatuato e che c'hai le svastiche, le cose, non è bello. Bastica no, perché non sono per Hitler, assolutamente. Sono per Mussolini, non per Parenzo, perché non lo denunci? Perché non lo denunci, Parenzo, per apologia di fascismo? Perché lo hanno già ricoverato, cioè l'hanno messo in ospedale psichiatrico giudiziario. Io te l'ho già detto un mese fa, che io delle tue denunce mi sciacquo no, i coglioni. No, perché purtroppo lei io non è processabile. In quanto incapace poco, di intendere e di volere, non è processabile. Quando tirerà fuori la verità sul caso dell'OMC, te. Sul caso dell'ONG, non c'è nulla, dell'ONG, come cazzo si chiama? Nulla. Mamma, come ONG si chiamano, nulla. Una bella seghetta, non c'è nulla. Ho capito, ma se lui dice nulla, che non c'è nulla, adesso no, io, il procuratore dice quando io parlo di pro, silenzio, blocca il malato di mente. Lei, Zuccaro, l'intervista di Zuccaro, legga prima di parlare. Zuccaro dice, parole testuali, quando io parlo di prove, intendo prove giudiziarie da poter portare in un dibattimento. Queste prove, dice Zuccaro, non le ho, ma la certezza che mi viene da fonti di conoscenza reale ma non utilizzabile nel processo che forse alcune delle navi operano all'interno delle acque territoriali. E ti pare poco. Il magistrato che dice che non ha prove da usare in giudizio. Avete dato credito a magistrati che ne hanno dette di tutti i colori adesso di fronte a questo. Ma non è la zanzara, è un magistrato. Ma non ha nulla in mano. Fermi tutti. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Luciani, dai, su, non ci crede nessuno, mo te fa sangue la moglie di Macron, dico, ci avrà le grinze, le so, ci avrà, dico, una baffa stracca, dico, ma dai. Ricordi pomeriggi, studiavo con Nicola, e tu con noi eri sempre là, quella maglietta stretta che Nicola non notava mai, per forza eri sua madre. Vai Ruggero. Io invece ti osservavo con occhi maliziosi e la dannata voglia di assaggiare un frutto proibito, troppo maturo. Naturalmente. Troppo maturo per me, ma quel frutto proibito, troppo maturo. Naturalmente. Troppo maturo, lo volevo cogliere. Vai Ruggero! Ruggero, ero in coda alla posta per ritirare la pensione e non ho riconosciuto quel ragazzino dai pantaloncini gonfi d'amore che ora è diventato un uomo. Vieni da me stanotte, Ruggero. Mio figlio Nicolo ormai vive da solo ed io sono vedova da 3 anni. La rosa che coltivavo con tanta passione si è ormai seccata. Eh sì. E ha bisogno di essere rinfrescata. Scandalo. Frutto proibito, troppo maturo. Sì. Vai Ruggero. Troppo maturo. Per me. Giuseppe, ma tu lo sai che è tornato di moda il pelo? Proibito. Ecco l'altro. Troppo maturo. Vai Karma. Troppo maturo. Ora lo devo cogliere. A proposito di fascisti a Vicenza, riceviamo una telefonata da Renato. Renato, eccoci qui, Renato. Vai. Allora, dimmi, Renato, ero in macchina, sì, e sì, sento la Zanzara che c'era questa manifestazione, questo incredibile. È sempre buona questa roba. Ok, qua, sento le manifestazioni incredibili che vengono da Vicenza. Incredibile, quattro gatti ci saranno stati. Quattro, forse neanche quattro gatti. Allora mi sono con la macchina avvicinato, tipo sin da... per strada, ho visto subito forze dell'ordine, ho detto allora ottimo, è tutto vero, è certo, tutto vero. Sì, mandate lì le forze dell'ordine, per forza. Allora? Mi avvicino, c'erano stati sì, se dire tanto 20, diciamo, più forze dell'ordine che manifestanti. Arrestateli tutti, portateli via. Allora, che è successo dopo? Certo, cosa certo, è successo? No, dopo? Allora, c'erano delle bandiere, no, delle bandiere degli stendardi, tipo. Vabbè, neri, ma insomma erano neri, nostalgici di Mussolini, che oggi, beh, 28 aprile, chi se ne frega? Ho detto, non hai fatto... Ah, ecco. Non so se era un reato o meno, ma però c'era anche gente che faceva fotografie. Apologia, io anche per caso sappiamo, vestito di nero, ho detto meglio che vado via, che non mi faccio, immortalare. Sì, perché ti prendono apologia di fascismo. Ma un quando reato mai previsto. Dai, ma procuratore di Catania, ma... Zuccaro, indaghi su questo. Ma dai, smetti. Indaghi su questo, che è un dato certo. Dai. Ma come va? Luigi da Monza, vai Luigi. Di fascisti, Luigi, dai. Vai Luigi. Sì, eccomi qua. Vai, dimmi tutto. Niente, volevo capire con Parenzo, come fa a essere lui così sicuro che non c'è nulla? No, io non sono sicuro, io parlo di quello che dice un signore, che è tal procuratore Zuccaro, che sta indagando su una cosa di cui non ha le prove. Allora, io mi baso solo su questo. Le prove ci lo sono, dice solo lui, che non hanno validità giudiziaria, ma lo ma dice, ci sono le non, prove. Non le ha, la adesso procura di Catania ha delle ipotesi che non sono prove. Vi posso dire una cosa, il problema problema rispondere accesi, Parenzo, le navi andavano adesso a prendere siete diventati i bagnanti tutti tecnici sulle coste libiche, ma scusami, non andavano nelle acque internazionali, ma scusi, andavano nelle coste, ma sulle scusi, coste libiche. Scusi, se lo stesso soggetto che sta facendo le indagini dice lui, non Parenzo, ma non state portarle in giudizio. Siete Parenzo, vittime di fake news. Siete mia moglie ha registrato il suo capo che la insultava e le diceva di tutto. Quando siamo andati al processo per mobbing, il giudice ha detto che quelle prove non andavano bene, nonostante c'erano ore e ore di registrazione, perché non c'erano i testimoni. Cioè, rendiamoci conto. Allora, ragazzi, no, il problema certo, fondamentale è questo. Scusami, ha ragione Luigi. Il problema non è tanto quello che dice, quello che non dice, le prove non prove. Il problema è un altro. Stanno massacrando un signore, lo stanno massacrando. Aspetta, massacrando semplicemente perché ha messo in dubbio la santità delle ONG. Ma non è questo. La santità del recupero nel mare dei migranti. Voi, certo, perché voi pensate sono degli angeli che aiutano i migranti. No, un momento. fanno i quattrini, fanno i quattrini, i pescatori di uomini, come li ha chiamati magistralmente Harry De Luca, operano gli scrittori, non sanno un cazzo, gli scrittori non sanno un cazzo, gli scrittori non sanno un cazzo, chiaro? Roberto Padova, Roberto, cioè, il procuratore che indaga dice che non ha un cazzo. Dimmi, e Cruciani, il procuratore saprà più di Saviano, saprà più di Coso, saprà più di Harry De Luca. No, ma l'ha detto lui. Dai, al momento no, questa è la notizia di oggi. Il problema è che hai il tuo, come si chiama il tuo conduttore? Sì, Parenzo. Il problema che ha lei è un problema. Anch'io perfetto. Quando sento Parenzo, mi viene. Bisogna vedere se ha il certificato medico per poterlo fare. Sì, secondo me non ce l'ha, io l'acquerello. Non lo faccia vedere. Io ho il certificato medico. Io ce l'ho. Quando lei è la zanzara, io ho risolto i miei problemi di. E allora vedi. Quando sento parlare, mi viene proprio una cosa naturale. Vedi che serve una cosa... qualcosa. Vedi che serve. Sì, chiederò un aumento dello stipendio perché provo con lei questo è un servizio in più, non previsto. No, mi devono dare più soldi a questo punto. L'abbonamento, qualcosa in più. Ecco, bravo. Esatto, perfetto. Perché se l'aiuto in questo fatto di stitichezza, chiederò un aumento perché non è previsto dal mio contratto. Lei continui a parlare. Sì, certo, beh, quello è previsto. Risolverai il problema mio, ma spero anche tanti altri. Ottimo. Ottimo. Ecco che sei. Perfetto. Ma mi soffre parecchio, vedo. Devo mettere giù per... Sì. Bravo. Esatto. Prego. Mostri il certificato medico, però. Vabbè. Ciao. Trasformato tutto in una cacciara. No, che cacciara. Ma vogliamo parlare di Zuccaro? Del procuratore Zuccaro? Vogliamo parlare di Zuccaro? No, perché mi manda ai matti questa... No, non mi ha dato niente. Dai, ma scusa, è una roba serissima, ma ti pare? Oh, Beppe, porca puttana! Appunto. No! Chi è questo? È Freccero? Allora... Ma chi è questo che dice no? Freccero. Allora, il nostro super fascista è andato a rompere i coglioni a quelli che hanno organizzato questa messa in onore di Mussolini a Vicenza. Senti cosa è successo da lì. Pronto? Sì, buonasera, sono Visentin, chiamo da Castelcucco Treviso. Buonasera, camerata. Buonasera, carissimo. Io chiamo intanto per esprimere la mia più totale, grande solidarietà a voi per questa encomiabile, sacrosanta iniziativa. Per me è un giorno di lutto, sono 72 anni che ce l'hanno ammazzato, sti bastardi schifosi. E direi di meglio, assassinato. L'assassinio è un qualcosa di premeditato. Assolutamente. Implica altre cose. Esattamente. Questa iniziativa ho letto sui giornali, ho letto che viene criticata, sono solo delle zecche rosse, dei bastardi. Esatto. Dopo 72 anni noi ci siamo sempre più forti e con sempre più fede di prima. Io non riesco a digerire questa melma fetida della partitocrazia moderna. Ma cosa fanno questi? Cosa fanno? Mangiano, distruggono tutto ciò che toccano, dalle basi, attaccano quelli che sono i fondamenti della società. Hanno cominciato con la famiglia, qua bisogna andare più su. Hanno destabilizzato con la famiglia, hanno destabilizzato. Ai tempi del Duce non succedeva questo, invece qua succede tutto. Ma perché ai tempi del Duce c'erano dei valori che dovevano essere rispettati. Tu potevi essere più o meno favorevole al matrimonio, ma rispettavi l'istituto. Bisogna rispettare, ci deve essere ordine. E oggi non vedo assolutamente ordine, niente. Dovunque ci si volti si vede solo melma. Camerata, è una cosa terrificante. Ma una, peggio che terrificante. Sì. Bisogna ricordare la memoria del grande Duce. Il primo rispetto che diamo al Duce è quello di metterci in pratica i suoi valori. Ci dobbiamo comportare da fascisti. Brava, bisogna essere fascisti fino al midollo. Questo bisogna essere. Esatto, e siamo diversi, fieri e orgogliosi di essere diversi e ci riteniamo alternativi a questo sistema. Questo sistema fatto soltanto di grassatori, di truffatori. Una persona viene ritenuta intelligente, preparata, colta se riesce ad imbrogliare. Fanno schifo, vomitare. Esatto. Quindi la prima cosa per onorare il Duce è essere fedeli ai suoi principi. Sempre. Non dover sempre guardare allo specchio. Uno si guarda allo specchio e alla fine della giornata dice: io oggi mi sono comportato da fascista. Punto. E che cosa c'è di meglio? Viva il Duce! Sempre. Viva il Duce! Sempre. Viva il Duce! Sempre e sempre. Camerata, a stasera. Fate. Arrivederci. A noi. Pazzesco. Una cosa pazzesca. Che vuoi far arrestare la vecchia? Vuoi far arrestare la vecchia? Come minimo. Vuoi come far minimo. Arrestare la vecchia? Sì, Zuccaro. Procuratore, c'è un procuratore di Catania molto bravo che non riesce a trovare le prove. Gliele diamo noi, non ti preoccupare, gliele diamo noi. Queste dice: servite queste su un piatto d'argento. Abbiamo, servite là, pronte a Vicenza. 30 persone che ricordano Mussolini sono là, andate. E ci sono le prove. Una vecchia chiama e inneggia il Duce. Tutto, gli diamo l'audio. 19:44, presso poco, Radio 24. C'è tutto. Dai, forza, imbastisca il processo. Arrivederci. Allora, ad Inolfi, ragazzi, mi ero perso questa roba qui. 30 milioni di persone sposate in Italia, nessuna con una differenza di età come Macron e Brigitte. Ma chi te l'ha detto? Ma che hai fatto un'indagine sociologica nell'anagrafe italiane? Cioè, nei comuni italiani, 30 milioni di coppie sposate, nessuno con una. Ma ce ne saranno poche, certamente. Ma non c'è da dire questo. Ad Inolfi, ottimo, brillantissimo, polemista. Mi segnalano che quando viaggia in treno, dorme sempre. Vabbè, che cazzo c'entra? Mi mandano 40-50 foto di Adinolfi che in treno si addormenta. Ma cosa sempre. C'entra adesso? Ma sarà, ma quando si addormenta? Cosa ma vabbè, pensa? Ho capito, sarà da stanco. Che cosa è stanco delle cose ma che stanco, dice? È stanco. È stanco delle cose che dice. Russa, anche russa mi hanno detto. Sì, c'ho anche l'audio del russo russa, di Adinolfi. Sì. Bellissimo. Ce l'ho qua nel cassetto, c'ho l'audio. Ecco di come Adinolfi Zuccaro, che come il procuratore, ho l'audio di Adinolfi che russa. Che cazzo vuol dire quella? Ma io ho l'audio, Ma non è utilizzabile processualmente. Stai, cioè sei, ti ripeto, sei vicino alla querela da parte di Zuccaro, procuratore di Catania. Tu la istighi però la querela. No, ma no, d'accordo, ma poveraccio, cioè, viene massacrato da tutti, dai, no, comunque, ma viene massacrato da se stesso, è massacrato da se stesso. 30 milioni di persone sono sposate in Italia. Sapete che non c'è neanche un caso con il dislivello d'età di Brigitte Macron con Emmanuel Macron? Una cosa rara, non è detto che sia innaturale. Penso al dolore che è stato causato a tre bambine, ai tre figli della Brigitte, quando questa ha detto sto con un quindicenne, che oggettivamente è qualcosa di surreale da tanti punti di vista e peraltro penalmente perseguibile, lo ricordo sempre en passant. Se non l'hanno mandata in galera quella là quando lui era un ragazzino, non è che la vuoi mandare te in galera, cioè adesso 30 anni dopo, no? Cioè, mi sembra assurdo. Comunque Macron fa il nonno delle nipoti di Brigitte, senti. Quando Donald Trump sposa Melania ci fa un figlio, cioè molto semplicemente Macron fa il nonno acquisito delle nipoti di Brigitte. Viva l'amore a tutte le età, ragazzi! Chi se ne frega di queste puttanate? Bravo, figli o non figli, bravo. Dai, 25 anni di differenza, ma chi se ne frega? Lui 39, lei 64. Bravo, importante che trionfi l'amore. Bravo. Su, e l'unico motivo per cui io potrei votare Macron in Francia è questo. L'unico motivo è questo, perché a 16 Penso anni a si inchiappetteva, vabbè, come direbbe Lino Banfi. Importa, Lino Banfi diceva inchiappetteva. Ma nei dettagli non la importa. Vecchia. La vecchia, all'epoca non era vecchia, la professoressa a scuola. È un caso proprio classico, proprio meraviglioso. L'unico motivo per cui potevo votare Macron è che è un uomo sostanzialmente che lavora nella finanza internazionale, per cui io non lo voterei. Lavorava, ma insomma, quello ma è. Ma perché adesso sei contro la finanza internazionale? No, ma non lo voto uno ma così. Sei impazzito, la finanza. Ma che sei contro la finanza Vittorio internazionale? Vittorio Feltri con noi, buonasera. Oh, buonasera, eccolo. Illustri signori. Come andiamo, caro Vittorio? Come andiamo? Un trionfo. Saluto, mi sembra che tu sei in quel di Bergamo oggi, come sì. D'habitude, no? Sono in viaggio per rientrare a Ponteranica. Bergam, la tua maison, sì. Maison esatto. Il tuo buon ritiro, sì. Diciamo buon ritiro la mia casa di campagna, la tua casa di campagna. Ottimo, certo, protetta da guardie oppure i ladri ogni tanto ti danno fastidio in quella zona? Sono già arrivati un paio di volte i ladri. ma io li ho presi a calci nel culo e ecco, se ne sono andati. Benissimo, no, sarà successo qualcos'altro, immagino che abbiano trovato... No, che sono arrivati i carabinieri, per fortuna. Per fortuna i carabinieri sono più bravi di me. Sì, no, è vero che tu, ottimo, mi sembra di capire, qualche tempo fa ne parlavamo, sì, qualche pistolettina la detieni lì, no? Cioè sì, la sì, certo. Per l'esattezza, certo, non mi ricordo. Ho il porto d'armi. Sì, certo. Sì. Io come ho, certo, tutto in regola. Sì, sì, certo, sì, che non sono uno che la usa immediatamente, la tengo perché mi dà una certa sicurezza. Ecco, niente di più. Che cos'era? Non mi ricordo. Quante ne hai? È una Smith Wesson, non so come. Smith Wesson. Ma da quanto tempo è che non vai al poligono a fare qualche tiro? Beh, non da un paio d'anni, ma per molti anni io, diciamo, mi sono tenuto minimamente allenato, nel senso che un paio di volte all'anno andavo al poligono. Sì. Ecco, ma se dovesse entrare un ladro, te l'avranno fatta 40.000 volte questa cosa, sì, questa Smith & Wesson, sì, la lasci lì per sicurezza? Ma lì dove? L'avrai, no, in cassaforte? Intanto, no? la impugno, poi siccome la so usare, non sparerei nel petto o nella testa di chi ha fatto irruzione in casa mia, sì, ma cercherei di spostare il tiro sulla destra o sulla sinistra. O al centro? Perché... No, al centro no, perché tempo il rimbalzo della pallottola, il rimbalzo della pallottola è pericoloso, insomma. Pericoloso per te, diciamo. No, non solo per me, ma anche per, certo, per il ladro, perché non è che io lo voglio ammazzare, voglio che se ne vada fuori dai coglioni, e se sento una pistolettata credo che sia indotto a fare dietro fronte, almeno questo spero. In teoria, questo sempre, sì, in teoria, sempre in teoria, poi può succedere di tutto. Può succedere di tutto. Io poi non ho capito una cosa, caro Vittorio, dunque i furti sono stati sventati i pochi dai carabinieri lì, ma poi c'è qualcosa da rubare a caso adesso? Non voglio dare qualche indicazione. No, no, no, diciamo oggetti di particolare valore, per cui credo che sarebbero costretti a rubare dalla cianfrusaglia. Però sai, ogni tanto si incazzano quando non trovano qualcosa, potrebbero incazzarsi. Questo è il rischio, infatti io lascio sempre un 4-5 mila euro a mia moglie, perché nel caso in cui succedesse che arrivano i ladri mi, sì, assenta, sì, e allora... Ah, così lei... tu lasci apposta 4-5 mila euro contanti, certo, dico, 4-5 mila contanti, dice tenete, in modo che... ecco qua. Accontentatevi e toglietevi dalle balle, insomma, perché... Sì, diciamo, potrebbero essere anche ingolositi, se trovano 4-5 mila euro contanti, però potrebbe essere un deterrente. No, perché gliela stai tirando. Non esistono ricette sicure in questi casi, però tu cerchi quantomeno di ridurre i margini. Sì, certo, non c'è dubbio. Senti, Parenzo si è fissato stasera nell'attaccare a spada tratta questo procuratore, no, di Catania. Si è attaccato da solo. Che viene massacrato da tutti dopo che per una vita i procuratori hanno parlato in televisione contro Berlusconi, contro chiunque, eccetera, no, eccetera. A prove e raccolte. Sono stati vezzeggiati. A prove raccolte. Ma che a prove raccolte? In tutte le occasioni. A processo istituito, come si dice. Ma dai. Non ma guarda, in fase di raccolta prove. Ma forse Parenzo ignora, sì, che il procuratore ha in mano delle nulla intercettazioni da cui si evince che in effetti le cose stanno come lui sospetta. Indubbiamente sono intercettazioni che non sono utilizzabili, appunto, formalmente, certo, dal punto di vista, quindi, dell'indagine, ma comunque c'è la notizia di reato, e in Italia mi risulta che quando c'è una notizia di reato, anche senza delle prove ben precise, si comincia un'indagine, invece quell'indagine l'hanno aperta sul magistrato. Esatto. Che mi sembra ridicolo. Perché il magistrato, scusa, ma... direttore, però il magistrato deve parlare quando ha in mano delle cose. Ma chi cose ha detto? Ma per una vita avete fatto parlare chiunque, no, in televisione? Ma che ha fatto? Avete chi avete? Ma cosa dici? Il magistrato non ha fatto nessuna dichiarazione. Come ufficiale. No? Ma come no? Ha rilasciato interviste. Vabbè, allora parli tu, se parli tu, parla tu, io ti ascolto. No, ma è andato in televisione a parlare, questo sì, certamente. Sì, ma questa non è una dichiarazione ufficiale. Andare in televisione ed esprimere un'opinione è un diritto che ha Parenzo, ma che ha anche il magistrato. Non diciamo cazzate, per favore. Eh no, amico mio, ma scusa, un magistrato... No, amico mio è un corno, perché qui le cose stanno così. Il magistrato è un cittadino, va in televisione e manifesta un sospetto. un sospetto. Certo, ma non deve, ma che scusami, è suffragato da un materiale che lui ha avuto. Ma non deve manifestare un cazzo, deve fare le indagini fatte bene. Te lo dico io, lo dirà anche il CSM, no, oltre al sottoscritto. Vedremo, sono diventati all'improvviso, caro Vittorio, sono diventati tutti quanti a difesa del fatto che il magistrato non può parlare. Ma no, abbiamo assistito nel corso degli anni. Non hanno fatto anni. Altro che parlare negli ultimi 20 anni, adesso non possono parlare più perché si discute di una faccenda che fa schifo e contro la quale nessuno vuole andare, perché ci sono di mezzo i cattolici, ci sono di mezzo gli speculatori, i trafficanti, i ladri, i farabutti e i profittatori. Ma la realtà è questa, che siccome in questa vicenda qui si vuole e c'è la santificazione dell'ONG come se fossero i salvatori dell'umanità, i buoni che salvano i migranti, è gente che fa i soldi come tutti gli altri, che lo ammettano, con i migranti facciamo i quattrini, facciamo i quattrini. State dicendo delle cose, è la verità che ha detto anche il magistrato, punto e chiuso, che non ci sono prove, inutile. Ma scusa, le prove ci saranno alla fine dell'inchiesta, e ma allora non la apri. E allora parlasse alla fine dell'inchiesta. Ma perché? Ma che è un cittadino menomato? Ma altri hanno parlato qualsiasi cosa. A parte, delicatezza. Ci si lamenta sempre della fuga di notizie. In questo caso qui la fuga di notizie l'ha fatta lui dal suo cervello. Lui stesso ha fatto la fuga di notizie. Lui dice vabbè, allora, il direttore, va bene. Fermi un attimo che c'è la pubblicità, poi torniamo con Feltri. Fermi. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Parenzo. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. La zanzara. Andare in televisione ad esprimere un'opinione è un diritto che ha Parenzo, ma che ha anche il magistrato. Non diciamo cazzate, per favore. Allora, come avete sentito, è con noi Vittorio Feltri, molto incazzato con Parenzo, quale non riconosce però una cosa fondamentale. Adesso uno per le opinioni più diverse, però c'è una cosa fondamentale. Quando andavano in televisione o facevano interviste sui giornali, magistrati contro Berlusconi, contro chiunque altro, nessuno osava dire parlavano a processi aperti, David. Sì, ma qui non c'è neanche un capo di imputazione ancora. Ma come no? Ti ha detto, sta indagando, ha detto. Ma questo signore dimesso, signore catanese, con gli occhialetti, non stiamo parlando noi, stiamo parlando tutti. Questo signore catanese, che non mi pare un Torquemada, mi pare un signore anche abbastanza mite, ha detto una cosa: ci sono queste ONG, alcune di questo qua. Io faccio fino a prova contraria al giornalista. Ha detto che non ci sono Feltri. Le prove perché non le può. Sto ai virgolettati di questo signore, Zuccaro. Madonna, allora? Ho capito che palle, ma queste sono le notizie. Dice: quando io parlo di prove, intendo prove giudiziarie. Che non ho denuncio, allora? Non ho prove. Sta ai politici fermare il fenomeno. Allora, o Zuccaro fa l'antropologo, il sociologo, e allora non faccia il magistrato. Ma se dice non ho prove, sta ai politici fermare il fenomeno, vuol dire che fa Vittorio, un altro mestiere. C'è da rispondere. È così. Qui siamo così. Di fronte a una cocciutaggine è impossibile da contrastare, perché se non si riconosce a un cittadino italiano che passa il magistrato, il medico o il tabaccaio di esprimere un'opinione pacatamente, precisando che comunque è soltanto un sospetto, beh, allora è inutile discutere. Cioè, tra l'altro, questo qua non mi pare un pazzo leghista, è un signore di Catania che sta facendo un'indagine e ha detto che alcune ONG sono in contatto con gli scafisti, cosa provata pure da trasmissioni televisive che hanno provato che questi si chiamano. Scusami, queste cose, fra l'altro, il magistrato in questione le ha dichiarate in Parlamento. Solo che nessuno lo ha ascoltato, perché sai com'è il Parlamento, è costituito da un sacco di imbecilli che manco ascoltano, e quindi voglio dire, non sta dicendo una novità, lo scandalo è nato soltanto perché è andato in televisione, invece il Parlamento non l'hanno neanche sentito, capisci che siamo nel ridicolo. Senti Vittorio, un'altra cosa, ma tu questa storia con una di 25 anni più grande, come la vedi? Straordinaria oppure per te è tutto normale? Ma sai, diciamo, ciascuno di noi fa quello che vuole in questo campo. Se se io che ho 74 anni avessi una fidanzata di 25 o 30, nessuno si scandalizzerebbe. Se invece invertiamo i sessi, se è una donna più anziana e il maschio è più giovane, allora si scherza, si ride, si tirano delle battute, va a letto con la nonna, eccetera. Ma insomma, ognuno fa quello che vuole, a me non me ne frega niente, non mi scandalizzo, non mi stupisco, va benissimo. Beh, se a lui piace la signora di qualche anno in più, chi se ne frega. Ma questo ha perfettamente ragione. A te ti piace questa qua, questa signora? Beh, è una bella signora, non c'è dubbio. Poi diciamo che io magari preferisco qualcosa di più fresco, però questi sono gusti miei personali. No, per carità, questo va benissimo, figuriamoci. Io questo. Invece sai che in realtà la signora Macron proprio non so perché mi arrapa terribilmente. Beh, signora, tu sei... ma io ti capisco, perché qualche volta le signore anziane sono arrapantissime. Ah, sì? Però certo bisogna scegliere. E questa è una da scegliere. È una da scegliere. Beh, dici, siete due gourmet. Anche a te qualche volta sono. Cioè, vuol dire tu una. Beh, a me piace. Non posso mentire. No, una assolutamente. Cosa così, eh? No, assolutamente. Però tu il massimo di differenza di età che c'è stata quando eri più giovane, diciamo. Perché non sembra. Beh, una trentina c'è già stata. Mi è successo. Cioè, ti è successo di andare, di avere quanti anni e di andare con chi? No, a 20 con una di 50 mi è capitato, ma mi sono anche divertito molto. 20-50 buonissimo. Non mi sono mai pentito, per amor di Dio. Santo Dio, poi non è mica un dramma anche andare a letto. Ma per carità, no, ma chi dice assolutamente? No, nessuno dice. Si scandalizza Parenzo. Ma no, non me ne frega niente. Non me ne frega niente, veramente. Almeno qui siamo d'accordo. Può andare a letto con chi gli pare. Com'è che fa? Ogni tanto frega niente. Ogni tanto ti imita. No, mi viene la feltrite. Voglio capire. Leggo comunque sul quotidiano Libero, no? Bellissimo, sul sito di Libero, no? Sì. Io non so neanche cosa sia. Se mi parli del quotidiano, io posso anche. Sito libero.it, c'è la foto di un signore, titolo Vergogna rossa, e Giancarlo dice cos'è la vergogna rossa, ha dimostrato che le ONG trafficano migranti, l'orrore contro Luca, ridotto così dalla sinistra. Non ho capito niente io, non so di cosa stai parlando. No, sta parlando di un titolo sul tuo giornale online. Ma io non guardo il titolo, il giornale online non mi frega niente, parla nel concernaggio. È un grande feltro, io amo feltri, me ne frega un cazzo, me ne io non so usare neanche il telefonino e mi fa di sì. Io amo feltri. Condivido chi... c'è una persona che non posso dire chi mi ha scritto io amo feltri, condivido. È una donna, attento. Meno male. Le donne come meno male, che c'entra? No, sono sempre comunque finisco la notizia, non gliene frega niente del suo sito, però il suo libero.it c'è scritto vergogna rossa, è quel ragazzo che ha svelato questi contatti. Ma aspetta, con le cose. Ma il titolo mi interessa, ha dimostrato che le ONG trafficano migranti, punto. L'orrore contro Luca, ridotto così dalla sinistra. Cosa immagini? Uno che l'abbiano menato, no? Immagino. Uno apre il sito, apre. Ma non c'è nessun orrore. Questo ragazzo dice che la sinistra lo attacca. Ma qual è l'orrore? Ridotto così dalla sinistra. Che a sinistra faccia schifo, qualcuno non lo scopre il sito di Libero. Lo sappiamo da millenni, tant'è che i comunisti sono andati a farsi fottere, persino ecco. Quelli cinesi sono diventati capitalisti, ma di cosa stiamo parlando? La sinistra fa schifo, questo lo sanno gli stessi comunisti, ex comunisti italiani, che si vergognano a dire che sono stati comunisti. E hanno ragione di vergognarsi, quindi vergogna è un titolo perfetto. Scusami Vittorio, ma tu sai che ogni tanto David ti imita. No, voglio capire che voto dai a questi episodi. Me l'hanno detto ma non l'ho mai sentito. Adesso me ne frega niente adesso. Devo andare a cena, mi fate parlare ma me ne frega niente questa cosa qua a me. No, io non dico mai più di una volta un'espressione, me ne frega niente lo dico una volta, perché odio le ripetizioni. Però in effetti a me che cazzo me ne frega di stare qui a rompermi i coglioni a parlare con parenti. No, ma è vero che ogni tanto Vittorio va in televisione, non gliene frega un cazzo. È vero. E vorrebbe andare più presto possibile. Poi in collegamento, una rottura di coglioni, non ti fanno parlare. A me piace quando lo invitavo. Mercoledì sono andato alla gabbia di Paragone. Due ospiti si mettono a discutere in modo anche molto eccitato di euro, di Europa, di campi, eccetera. Solite cose. E nessuno ha capito niente. Quando loro hanno smesso di parlare esausti, allora Paragone mi dice: ma tu cosa ne pensi, Pietri? Io non ho capito un cazzo, ho detto. E il pubblico esultava, perché nessuno aveva capito niente, cosa c'è, anche i poveracci a casa. A volte si fanno delle cose a livello mediatico che, alle quali ci appassioniamo solo noi. Sì, questo sì, assolutamente. A me piace molto, quando lo invitavo in onda, lui era collegato da Bergamo e gentilmente ogni tanto veniva. A un certo punto, però, quando si annoiava, sì, ovviamente, sì, sì, un'altra cosa, diceva: ma mamma, frega niente, sto qua a sentire questi due stronzi che parlano qua, ma io vado via, ma io vado. E poi aggiungeva: a Parenzo, ma non sono neanche pagato, a me frega niente di rimanere qui, e andava via. Stupendo. Ma tu lo sai che cosa subentra ogni tanto? Perché uno va nelle trasmissioni? È che perché uno, a me poi piace, in realtà, dice: non sono neanche pagato, no, perché uno mi piace non si, molto. Se no, altrimenti uno si annoia. Se non va, se non fai qualcosa, sì, c'è il terrore della noia. Il terrore, no, se guadagni, fingi anche. Assunto il tuo aplomb, eccetera, sì, sopporti, ma se non ti pagano, ti rompono le balle, lo dici e te ne vai. Scusa, però tu sai, l'elisir per vivere insieme ad una persona, sì, tanti anni, come fai tu, qual è? Quella di vederla poco, di non dormire insieme, qual è l'elisir della longevità del rapporto? Beh, perché io amo mia moglie, sono con lei da 50 anni. Vabbè, l'amore si sarà trasformato in qualcos'altro. Sì, ma l'amore, diciamo così, non c'è una ricetta che dica che cosa è fatto l'amore. L'amore è che io adesso sono arrivato in questo momento a casa mia, sì, con Teranica, e ho voglia di smettere di parlare con voi e entrare a salutare mia moglie. Questo, sì, d'accordo, però tu non ci dormi insieme, perché così è, no, sempre. No, ma questo mai, non l'ho mai fatto. Mai fatto? Mai però, dormito insieme? Ma trovo che sia inutile dormire insieme, ci si infastidisce a vicenda. Allora, intanto all'inizio avevamo una casa piccola, abbiamo separato i letti, sì, fatta la prima, come, operazione, sì, fatta quasi immediatamente. Poi abbiamo separato le stanze, sì, poi abbiamo separato i piani, perché, sì, abbiamo preso una casa più grande, e poi, sì, abbiamo separato la città. Io, sì, vivo a Milano e lei a Bergamo. Ma no, ma invece è bellissimo stare abbracciati alla fidanzata. Ma che abbraccio? Vabbè, questo lo fa. Ma che abbraccio? No, ma voglio dire, lui sarà stato e abbracciato qualche minuti, volta. Dopo mezz'ora, niente, di abbracciamenti, io mi rompo le palle, voglio anche leggere, ma il giornale. Ma sì, io, ma certo, io vado, ma via. Tutti siamo fatti tutti così. Quindi, senti, un'ultima poi, cosa. Dopo due anni che stai con una donna, ti hai già rotto i maroni, no? Ma quindi glielo dici anche tu, ma basta, vado via io, non sono neanche pagato, la moglie dice: ma stai qua, ma dove vai? A me risulta che te ne sei andato tu, io da mia moglie non me ne sono mai andato. Sempre meglio non andare via, sempre meglio, meglio non andare via. Sì. Non sai anche che risparmio. Sì, beh, sì, c'è un grande risparmio, sì. Cioè, se, questo non c'è dubbio. E mi stupisco che tu, che hai anche delle origini, diciamo, che sono una garanzia, dovresti saperle. Parenzo, sì, origine ebraica. No, come il direttore Felti, sono attento, diciamo, attento a guardare. Senti, un'ultima cosa, però io, Vittorio, io dico una cosa. Questo ma ci accomuna. Non capisco perché tu hai fatto tua la battaglia assurda per togliere i sexy shop dal centro di Bergamo. Bravo. Bravissimo, cioè, direttore, questo volevo dirtelo, complimenti. No, io complimenti. Non ho fatto nessuna battaglia. È fatto Gori, che è un grande sindaco. Bravo. E faccio i complimenti anche approfittando della vostra ospitalità, che ha deciso che, bravo, le schifezze in Città Alta non ci devono stare. Ma, bravo, non solo quel sexy show, ma neanche le friggitorie, le pizzerie. Ma perché? Ma che siete matti? Perché, bravo, ci rompono le palle. Noi, vogliamo, noi odiamo il turismo. I turisti devono stare via da Bergamo. Come noi via? Siamo non so se la città, signor, è nostra, viviamo noi. Ma cos'è? Ma non è vero. Ma non ci rompessero il cazzo i turisti a Bergamo. Ma cosa, comunque, dice? Ma perché via i turisti da Bergamo? Scusa, perché dici? Frega niente. Ma perché vengono i turisti, spendono un euro e mezzo per comprare un trancio di pizza e li dobbiamo sopportare tutto il giorno, che poi buttano i fazzoletti di carta per terra, sporcano le cicche. Ma se ne stiano a casa loro, non vengano qui. Bergamo è all'estero. Lo stato libero di Bergamo. Sì. Senti, noi però li vogliamo. Anche i gay ti amano. Ho qualche messaggio. Anche i gay ti amano, non so perché. Dice, ma io non ho nessuna ostilità nei confronti dei gay e di nessuno. Però il pisello, no, non ti piace, dai, il pisello. Vabbè, non ti è mai piaciuto. No, quello non c'è. A me, tu lo sai benissimo, ci conosciamo da anni. Mi piace. Sì. La figa, dai, diciamo la verità. La gnocca, sì, quella, ecco, quella che si può chiamare gnocca o figa, sì, dai, uguale. Però mi piace molto, ma non mi ricordo perché. Ah, perché è tanto che non frequenta, direttore. È tanto, no, che non frequenta. Devi sapere che ho 74 anni. Ricordi antichi. Va bene. Ciao, vabbè, ciao Vittorio, presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao direttore, ciao. Ciao. Girl, I wanna take you to a gay bar. I wanna Collega in auto, gli faccio ascoltare il podcast della Zanzara. Ad un certo punto parte il ritornello con la canzone di Calcutta e la Lores in sottofondo. Giù battute su squirting. La collega, anch'io squirto da matti. Beh, ragazzi, siamo al top. La mia specialità è lo squirting, amore. Beh, amica mia, Parenzo! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Spruzzavi, cos'è lo squirt? Mi visita un dottore, mi disse, non è niente, è nettare d'amore. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. La Zanzara. Cruciani, Cruciani, siamo al cesso di una nostra amica in due. In due, io piscio nel water. Io piscio nel lavandino. La gioia di Cruciani. Siamo al pisciatop. Aspetta. Parenzo. Grandi. Bravo Parenzo, hai proprio ragione, sono dei miserabili. Parenzo, ammettilo che ti segavi anche tu pensando a Lori del Santo che le sbicava duro con Tini Cansino. Vai fratello! Allora ragazzi, andiamo a Roma da Daniele, vai Daniele, vai. Dimmi, ecco, dimmi. Allora mi senti? Perfetto. Sì, sì, dimmi, dimmi. Allora guarda, il discorso è semplicemente questo, lo vogliono mettere in croce sto povero disgraziato di Chi Zuccaro. È il disgraziato? Zuccaro dice no. Magistrato, sì, avanti tutta, sì, avanti tutta da Catania. Le tifoserie sono incredibili su questa cosa. Avanti tutta, avanti tutta. Siccome indaga, siccome indaga sull'ONG, allora diventa un santo. Guarda che incredibile. Che santo, siete voi che l'avete massacrato, mica il santo. Ma lo massacriamo, lo massacro sul fatto che lui dice di non ha prove. Azzitti per favore, quella specie di zanzara. Ma sia zitti lei con il cervello. Dai, va bene, allora dimmi. D'accordo. Allora, dimmi. Il discorso è questo: ogni nave c'ha il suo transponder e sono tutti quanti marcati col GSM. Sì. Ed è già stato provato in precedenza che queste navi arrivano molto, molto vicine. Basta seguire il tracciato dell'Aquarius o di quella e quell'altra, con poche chiacchiere. Il discorso è che quando tu infrangi le regole, o lo fai in buona fede o in cattiva fede, o lo fai con pagamenti o senza pagamenti, hai sempre infranto le regole. Ma quali sono le regole infrante? Quali sono le regole infrante da questo ONG? Qual è la regola infrante? Se tu dici che devi salvare qualcuno in mare, per l'amor del cielo, lo devi salvare in mare. Ma se tu lo devi andare a prendere come il tassì sotto casa, è un altro paio, è un altro paio di maniche. È chiaro. Allora diciamo, chi è che parla sotto? Chi sta prendendo sotto casa? Chi sta parlando sotto? Niente, è un'altra persona che è contraria a quello che dico. Ecco, è un genio. Allora il discorso è, ha capito, se noi facciamo i tassisti va bene, diciamo, ha ragione, okay. Daniele, ma il mi pare abbastanza chiaro, non è avvelenato, non è avvelenato, sta dicendo una cosa molto semplice, una cosa è salvare le vite in mare, perché la grande truffa mediatica che ti stanno dicendo in questi giorni è che l'ONG salvano le persone in mare, non è vero. Con non le è vero, non con, è vero, è finto, con la è guardia falso. Costiera, dite comunque, cose false, è fake news, siete dei fake. Ok, allora posso, vado avanti. Allora, io posso essere anche d'accordo che le ONG lo stanno facendo per benevolenza e ci hanno anche ragione, va bene tutto. Aspetta, però il discorso è un altro, che gli interessi economici e tutto il resto vanno a pesare sugli altri disgraziati che siamo noi. Cioè il governo, per spendere una barca di soldi per mantenere questa gente che non scappa dalle guerre, perché quelli che stanno in guerra non vengono da soli belli, grandi, senza genitori, senza figli, perché se hanno abbandonato i loro parenti in guerra, è chiaro che nessuno scappa, ma già si sa, ma lascia perdere questo, ma già si sa che non scappa nessuno dalla guerra, dai, cosa è una percentuale bassissima, ma cosa stai dicendo? Va bene, Davide, ma perché voi non scappa nessuno dalla guerra? Nessuno scappa dalla guerra. Pochissimi scappano dalla guerra. Scappano perché vogliono venire in una... In Siria non c'è guerra. Ma in Iraq non c'è guerra. Ma che dite, ragazzi belli? Parenzo, se ti tiene il fegato, rispondi a quello che ti dico io, però con calma. Il discorso è solo questo, tranquillità. Se noi, il nostro governo, il nostro Stato spende una barca di soldi per mantenere questa gente, è chiaro che non può abbassare le tasse, non abbassa le tasse alle nostre industrie, le quali dicono che non riescono a mantenere il nostro posto di lavoro per il costo alto. Noi ce ne andiamo a casa disoccupati e questi vengono tutto il giorno a telefonare senza fare un cazzo. Questa è una parodia, però la verità è questa. Tu trovamene uno, i polacchi facevano il muratore quando sono arrivati, questi io non vedo nulla, io vedo solo che c'hanno il telefonino, stanno bene e ti dicono: ehi fratello, mi dà un euro, se non glielo dai dicono che sei razzista, ma non è per cattiveria, ma me ce metto pure io a un euro quando sto a perdere posto di lavoro perché dicono che le tasse sono troppo alte, ma le tasse sono alte perché sono grandi spese, ma se le spese sono fatte, scusa, a cazzo di cane che andiamo a fare i tassisti, facciamoli la beneficenza a casa loro, non facciamo i tassisti, ragazzi, che ci sia Daniele, allora grazie, che ci sia un business, caro Parenzo, legato a queste ONG, mi sembra fuori di dubbio. Dunque, le ONG, cioè, mi sembra fuori di... va bene, d'accordo, allora sono tutti benemeriti, e lavorano per il bene dell'umanità, vuoi credere a questa favoletta? Credi a questa favoletta. Emergency, ad esempio, Medicine Sans Frontier, Davide, come te? Sono già qua, basta, Davide, non serve nessun altro. Davide da Roma. Medicine Sans Frontier non serve, serve. E allora che dici? Serve come? Ma che domanda è, Davide? E allora, quelle sono le ONG. Davide da Roma 2, dai, Davide 2. Qua, basta, non voglio nessun altro. Dimmi, Davide. Io vorrei parlare del Papa che è andato in Egitto, no? A me non mi sembra una cosa giusta dopo quello che è successo al nostro connazionale. L'hanno torturato. Vabbè, che cazzo c'entra il Papa? Il Papa è il capo di uno stato straniero, peraltro. Cioè, per cui che cazzo gli frega dei Regeni? Ma andrà lì e gli chiederà la verità su Regeni. Questi egiziani, arriva il Papa, chiede la verità su Regeni, si metteranno sicuramente a pecorina davanti al Papa. Dai, su, Davide. Ma che ridicolaggine. Però detto questo, il Papa può andare tranquillamente dove vuole, in Egitto, figuriamoci. Fammi parlare, mi fa spiegare. Capo di uno stato straniero, il capo della città del Vaticano, va a trovare il capo dell'Egitto. Qual è il problema? No, aspetta. E qual è il problema? Perché ti colpisce il Papa in Egitto? Non capisco. Il Papa in Egitto ha detto anche Salomone. Com'è che ha salutato oggi il Papa? Salam aleikum. Salam aleikum. Posso parlare? Vabbè, Davide, dimmi. Davide o Davide, innanzitutto? Perché il Papa rappresenta noi. Quello che sarà ammazzato era cristiano. Che lui è andato là, no? E parlavano di oggi sul giornale, parlavano di Hai fumato o no? No. Ti sei fatto una canna? Non ancora. No. Parlavano di pace, parlavano di tutto. La pace qual è? Quella di torturare un povero ragazzo. Ma che c'entra col Papa? Il Papa è andato in Egitto. Tu dici ha riconosciuto gli egiziani. Dice, ma quello, vabbè, quello è il Papa. No, però. Sempre siamo su quel punto, su quel livello lì. Città del Vaticano, non è che c'è la democrazia, cioè non c'è il Parlamento. Non è che funzionano queste cose, i tribunali bene, in senso come ce li abbiamo noi, con tutte le garanzie, eccetera. No, fino a poco tempo fa c'era la pena di morte. Cioè, non mi pare una cosa così dentro la città del Vaticano. L'amministrazione non è così diversa dai signori egiziani. Adesso questo è un po' diverso. Vabbè, Davide, ciao, mi hai rotto i coglioni, ciao. No, aspetta, mi hai rotto i coglioni, ciao. Ooh. mobile. Roberto dalla provincia di Savona, vai. Poesiola, poesiola scritta dal poeta, sì, della facciamo maggioranza. Facciamo partire i violini, vai. Della maggioranza violino. Silenziosa. Un attimo, c'è questa aspetta, poesia. Aspetta, aspetta. Il poeta della maggioranza violini, silenziosa. Aspetta, violini, violini, vai, vai. Arrivederci, amico Rom. Anche tu arricchisci il mondo con la tua cultura. Affronti la vita senza paura. Il razzismo, il populismo, perfino Cruciani cercherà di rovinare il tuo domani. E se è vero che siete tutti dei ladroni, sono forse tutti gli speaker radiofonici maiali, zozzi e sporcaccioni? E forse ogni Mauro da Mantova un povero pazzo? O tutti Donato delle teste di cazzo? Perfino a dei politici è capitato di rubare e noi tranquillamente li continuiamo a votare. Se avete paura, tranquilli, ve lo sussurro nel vento, vi aiuteremo sempre con il comandante Parenzo. Che sia un addio o un arrivederci, questo non lo so, per ora in bocca al lupo, amico Rom. Bah, bellezza. È una poesia lasciata, sì, oggi al Sole 24 Ore, sì, alla sede della radio, da, sì, un ascoltatore che voleva esaltare Lorenzo Riccardo, la cosiddetta maggioranza, che per me non è, sì, maggioranza, insomma, silenziosa, quella, sì, che è a favore dei Rom. Dei Rom, per esempio, a favore dell'integrazione dei Rom. La poesia Rom si chiama Arrivederci, amico Rom. Sarebbe da studiare nelle scuole. Roberto dalla provincia di Savona, vai. Sì. Roberto. Giuseppe? Dimmi. Eccoci qua, ciao. Sono Roberto il Bagnino, ci eravamo già sentiti di Noli. Amico mio, grande puttaniere, grande puttaniere. Perché grande puttaniere? No! Beh, come no? Sei stato magari grande puttaniere. Grande è un parolone, dai. Grande scopatore della Costa Ligure, diciamo. Dai. Cercavo di difendermi sempre. Vabbè, allora, come mai allora, questa telefonata alle 20:27? Io non chiamo mai, infatti è la seconda volta che ti chiamo, nonostante vi sento sempre, quindi... Allora, ho voluto chiamare per la questione squirting. Sì, ecco, certo, sì, il tema di grande attualità, vai. Allora, nella radio del Coffee Industry, fino a quando, certo, fino a quando Parenzo è sempre il numero uno, mi fa proprio morire. Comunque, detto questo, sì, allora, mi è capitato, sì, un po' di tempo fa, no? Sì. Eravamo proprio, diciamo, all'incirca prima di Natale, quindi è stato anche un regalo. Sì. È stato proprio il classico natalizio. Regalo, veramente una, certo, cosa che io non mi aspettavo. Sì. Dal fatto che mentre ero lì appunto nell'atto... Cioè nell'atto stavi trombando rotto. O stavi con le stavo mani? Stavo trombando. Ecco, sì, l'altro, a un certo punto mi dice, togliti, e presto togliti. Io mi sono levato. Togliti, che era asiatica, che era. Togliti, pensavo fosse, che ne so, cinese, giapponese. No, togliti, italiana. Italianissimi. Cioè, mentre tu stavi là, che stavi anche un po' faticando, sì, per la tua età, insomma, stavi un po'. Insomma, no, dai. La mia età è 46, 47, mamma. Vabbè, ma insomma, vabbè, 46. Stavi un po' faticando lì a cercare di farla venire e non ci riuscivi, diciamo. Vabbè, sono tutti i dettagli. Comunque, senti, mi tolgo perché appunto mi dice quello, quindi mi levo. A un certo punto, un getto. Giuseppe, io ti giuro, sarà stati 2 metri di lancio di questa... Non è finita lì. Parenzo, attenzione. No, tutto vero, io lo conosco Roberto, è tutto vero, non è un cazzaro. Dottole è uscito con Procuratore Zuccalo. Zuccalo. Dottole è andato a cantare da Procuratore Zuccalo a mangiare la cassata. Oltre a devastare il divano, perché puoi immaginare, e le tende dalla porta finestra che dava sul terrazzino. Lei mi dice, fai qualcosa. Io per un attimo sono rimasto lì a bocca aperta, proprio bello. Ma fai il bagnino, dovresti essere abituato, fai il bagnino. Certo. Ma dopo, subito dopo, lei continua a dire, mentre rideva, sì, fai qualcosa. E c'era la frappeuse, sai dove metti la bottiglia dentro col ghiaccio e tutto un po', no? Beh, certo. Il secchiello. Il secchiello, frappeuse. Ho svuotato di corsa il secchiello, sì, e cercavo di centrare il suo oggetto. Perché erano più getti. Un'immagine ghiacciante. Allora, è stato il primo getto molto lungo. Sì. E continuo. Dopodiché c'è stata una leggera interruzione, poi di nuovo. E sono stati 3-4 lanci. E io questo secchio, credimi. Quale sei riuscito a prendere? L'ultimo? Sei riuscito a prendere l'ultimo? Diciamo che un po' facevo fatica, un po' lo facevo anche volutamente, che inondasse tutto il salotto, che non era neanche a casa mia. Alla fine sto secchiello com'era? Era vuoto. Vuoto perché è andato dappertutto. Roberto da Noli, provincia di Savona, racconta uno spaccato di realtà della sua vita privata. Realtà. Dimmi, che c'è ancora? Poi ti racconto l'ultimo, poi ci sentiremo magari a fine estate. Io sono già qui a spiaggia, tra l'altro. Sì, vai. Allora... Ok, andiamo avanti. Ero un ragazzino, 21 anni, e la mia veramente è stata bellissima come esperienza, con una di 56 anni, era una tigre. Vabbè, ogni volta nel letto era un combattimento, Giuseppe, meraviglioso. Perché a me quelle statiche, quelle ferme, non me ne frega niente. Io voglio il combattimento sul combattimento. Letto. Cioè, senta, letto lei, signor ring, Bagnino, bellissimo. Quali altri programmi di Radio 24 ascolta nel corso della giornata? Ma io guarda, allora, non mi crederà, però sì. Alessandro Mina, numero 1, spettacolare. Sì, praticamente io ho perennemente le cuffiette sintonizzate, sì. mi cadono per i coglioni con quel programma di 10:30. Non diciamo cose sempre. E poi dico a tutti, solo no, per capire no. se lei ascolta Fermo solo lì. Questo programma. Ma nessuno deve sentire quello della Celentano, vi prego. Quello è bellissimo. Sono molto amico della Celentano, fa un bel programma anche. Fermi, ma se lo deprime, lo deprime. No, tu sei deprimente, tu, con questi racconti schifosi che fai. Buonasera amico Rom, sono Parenzo. Per lasciarti andare. Handicappato, malato di mente, di centri sociali, bruciarli tutti col napal. Suona una fisarmonica. Col napal. Fiamme nel campo Rom. Napal. Tua madre lo diceva, non andare su YouPal. Napal. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. L'italiano è bello perché ha le parole che hanno un significato. Si dice zingaro, clandestino, frocio, monnezzaro, spazzino, giardiniere, no, collaboratore ecologico, amico Rom, fanculo Parenzo e Manconi. Questo è gravissimo, Molto, sì. Non ti lavi mai, zingara, ci fosse lui, vi bruciava tutti, sai. Se siete ancora qui è colpa dei buonisti, idioti che votano e comunisti, negri, marocchini, rumeni e musulmani. Allora è successa una cosa molto grave, caro David, al di là dei messaggi degli ascoltatori che sono sempre come dire il fulcro di questa sarabanda che va in onda dalle 18:30 alle 21 cada dia, come si direbbe in spagnolo, ogni giorno lunes viernes, bravo. Lunedì al venerdì sulle onde, sulle frequenze della radio, come direbbe Capanna, della Radio 24. Questa Radio 24. È successa una cosa molto grave. La radio della cosiddetta Confindustria. Ma no, perché cosiddetta? Ancora esiste cosiddetta Confindustria. Comunque, ragazzi, è successa una cosa molto grave. Sono stati licenziati i due dipendenti. Sai che, scusami, no, prima di domenica sera suona Calcutta a Roma. Ma ragazzi, ma mica stiamo a parlare qui al coso, come se fossimo nella hall di un albergo. Ma sai che, dico a tutti gli amici, ma chi se ne frega del signor Calcutta? Beh, che suona a Roma. È un flusso io di notizie. Vado da Ruggero dei Timidi. Si può andare anche, allora, certo, però, ragazzi, una notizia importante è questa: i due dipendenti della Lidl che avevano messo la Roma nel gabbiotto lì sono stati licenziati. Ottimo, oh, giusto. Sono stati licenziati. Sì, licenziati dalla Lidl, però non dai comunisti, capito? Sono stati licenziati perché ritenuti inadatti. Quei due che per scherzo avevano messo la Roma dentro il gabbiotto. A te devono mettere nel gabbiotto. Dai, per scherzo, ragazzi. Io adesso la settimana prossima prepareremo una grande mobilitazione. Cioè, i due signori della Lidl che hanno messo nel gabbiotto la Roma sono stati licenziati. Questo era l'urlo. Erano le urla della Rom dentro il gabbiotto. Pazzesco, veramente fa venire i brividi. Ma che fa venire i brividi? Ma sì, quella sì. Là, il giorno dopo rideva e sorrideva in giro per Pallonica, in giro per Grosseto, dove cazzo era. Ragazzi, basta con queste storie. Fa venire i brividi. Decisione di licenziare i due cosiddetti guasconi, come tu li vuoi rappresentare, non viene dalle ONG, non viene dal PM Zuccaro. No, da un'azienda, dalla Lidl. Viene da un'azienda privata che ha ritenuto quel comportamento sbagliato e quindi li ha licenziati. La Lidl tedeschi Lasciamo perdere, adesso ci penso bene la settimana prossima. Voglio fare una grande battaglia contro questi signori della Lidl. Brave persone. Gente seria. Bisogna vedere il motivo per cui sono stati, ovviamente. Non può tollerare queste cose. Va bene, Giuseppe. Anzi, no, Ernesto da Roma prima. Signor Ernesto, vai. Pronto? Vai, bene, Ernesto, grandissimo. Ah, mi ricordo la tua voce, sì, mi ricordo la tua voce, Ernesto. È tanto tempo che non ci sentiva. Come mai non chiami più, caro Ernesto? Che è successo? Ma perché ho avuto un po' da fare, sono stato all'estero, poi ti dirò. Sì. Scappato sì, all'estero con i soldi, cosa hai fatto? Ho chiamato stasera perché qualche paese fiscale, volevo dire soprattutto a quello stupido di Parenzo. Ecco, vedi, immaginavo. Che mi auguro che ne vengano fuori altri 10, 100, 1000 procuratori come quello di Catanzaro. È di Catania, sulla pelle di questi poveri ragazzi di intanto colore Sicilia, che vengono a morire nel mare o a fare i nulla facenti qui da noi. Ernesto, è un mercimonio tra organizzazioni non governative, ha già fatto la tra le strutture che Ernesto, cervello non proprio lesto, ha già fatto la sentenza. Questo Ernesto, cretino di Parenzo non capisce Ernesto che c'è dal un cervello poco lesto che ci ha già fatto la sentenza. Una minoranza etnica, sì. Beh, guardi, meglio far male, soprattutto se, le, se gli italiani sono qua come lei, meglio diventare minoranza etnica. Quindi guardi, questo è perché sicuro. Parenzo queste cose non ci arriva proprio, perché c'è la testa solamente per separare l'orecchio destro dall'orecchio sinistro, e questo l'aveva già detto un anno fa, non ci arriva. E questo già un anno purtroppo fa l'ha detto. Fatto questo sta che Ernesto, il cui cervello viva non Zuccaro, è lesto, che viva è Zucca, adesso parlo in spagnolo, che viva Zuccaro, che viva 10, 100, 1000 Zucchero. È benissimo. Gente che fa processi senza le prove. Chi cazzo è che mi chiama? La gente africana. Aspetta, aspetta Ernesto, chi cazzo è che mi chiama? Pronto? Pronto. Chi è? No, niente, sì, mi chiamavano qualcuno che non sa che sono in diretta, mi chiamano. Vabbè, Ernesto, allora sì, ma che ne sai? Hai capito? I ragazzi che vengono qua, io li vedo per le strade, che stanno con questi telefonini all'orecchio, non fanno niente dalla mattina alla sera. Questi faranno una brutta fine. Il primo governo di destra in Italia li manderà tutti alla Sinara, li chiuderà e butterà la chiave. E poi è un bel approccio, però. Un bel approccio. È un bel approccio, mi pare, no? 100, 1000 zuccheri. Bene. Zuccaro non è Catanzaro, che ma è Catania. Di Catania, volevo, intanto, sì, così Catania, giusto Catania, per... Catania, Catania, sì, scusa, sì, Catania. Nell'entusiasmo. Vabbè, è uguale. Non ha detto un cazzo come con la C comincia. Sì, tutto uguale, dai. Tutto uguale, chi se ne frega, dai. Avanti. Forza, povero Ernesto. Va bene, ragazzi? Sì, vada a fanculo, perfetto. Torni a portare il denaro lì dove vai in giro a portare i soldi. È stato molto all'estero. Poi ti dirò, siete amici, cosa fa lo spallone? No, questo qui? Ma Ernesto, è il tuo spallone. Ha scritto questo anche un libro. Ha scritto un libro, Ernesto. Ha scritto un libro. Strano, certo, che non lo abbia visto recensito sul Sole 24 Ore. Strano, ha scritto un libro, Ernesto. Sì, sugli strozzini. Ah, ma domattina corro in libreria a comprarlo domani. Sì. Domani compro. È settato come su si Catanzaro chiama questo libro? Come si chiama questo libro? Sentiamo. Il cravattaro. Come mai è introvabile questo libro? Come mai? Comunque, Parenzo, non per non le troppe, non per le troppe copie vendute, immagino, no? Non per le troppe copie vendute. Ne hanno stampata una sola. Mi raccomando, non lo comprare, per no, carità. No, non c'è pericolo, non si trova. Capirci qualcosa. È introvabile, non si prova. È introvabile, è stato venduto tutto. Ciao. È stato venduto tutto. Una copia. Ciao Ernesto. Hai capito? Sì, no, una copia. Lascia, non è cosa per te. No, ma non si preoccupi, non lo uso, me lo prendo. Non ce la posso fare. Ciao. Le donne del mio tempo si sono emancipate, non sono sprovvedute, sono più spregiudicate. Gli piace di riunirsi insieme per parlare di cose che noi maschi non possiamo immaginare. Ne parlano giù al bar, se nessuno le ascolta, lo dicono chiaramente, senza c'era una volta. Lo dicono alle feste, vestite di pigiama, le donne sono così, o le si odia o le si ama. Parlano di scarpe, parlano d'amore, e parlano di vacanze, parlano di cuore. Parlano di gruppone, parlano di ingredienti, e parlano di cerette, parlano di assorbenti. E se l'argomento a mancare viene, le donne parlano di lunghezza del pene. Vai, vai! Questa è ottima, Allora, giustamente mi fanno notare e i sindacati che hanno fatto riassumere i dipendenti che rubavano nelle valigie a Malpensa hanno sbagliato. Cosa fanno? Hanno sbagliato. Stanno zitti. Hanno sbagliato. Stanno zitti. Sbagliarono cari all'epoca. Cari amici della Lidl, quei sindacati sbagliarono non all'epoca. Non sapete cosa vi aspetta da lunedì, cari amici della Lidl. Della Lidl. Stai facendo un danno economico. I lo due sai. No, io non ho detto niente. Io dico i due signori che avete licenziato perché per uno scherzo avevano messo una ladra rom. Una ladra rom dentro, avevano chiuso dentro una, un gabbiotto con lei che urlava. Licenziati. Spero, certo. Spero che magari c'è altro dietro, eh. Spero che ci sia altro, che non sia solo per quello. Capito? Fai fare un'inchiesta a Zucchero. Allora, tu te la ricordi una transessuale che transitò? Ci mancava altro. Che transitò 20, da qui. 44 per voglio forza, chiudere in bellezza. Voglio chiudere, sì, in bellezza. Voglio chiudere in bellezza con. No, voglio chiudere c'è in ancora trans, Giuseppe. Da... Cioè. Vuoi in psicanalisi? Vuoi chiudere in trans? Voglio allora, chiudere no? In trans agonistico. Sì, ecco, trans agonistico. Trans. C'è ancora trans. Daniele da Bari, Giuseppe da Trento che ti vogliono massacrare su Zucchero. Sebastiano dalla provincia di Monza Brianza, che non è Barisoni. Aldo da Torino e altri ancora. Tutti a quel paese. Gente benemerita. Gente benemerita. Però prima la signora Gwendalina Rodriguez. Buonasera, signora Rodriguez. Ciao, buonasera a tutti. Allora, ciao Giuseppe, ciao a tutti. Allora, signora Guadalina Rodriguez è transessuale, cioè munita, sì, ancora non si è operata, dunque munita, vabbè, di pisello, immagino. Vabbè, questo è chiaro. Signora Guadalina Rodriguez è napoletana ma di origine brasiliana, è venuta, sì, in Italia. Cambio documenti, ovviamente. Cambio documenti, nel senso che sei ormai donna, come la quella dell'altro giorno che si è sposata praticamente. Ah, la conosco, tra l'altro è una mia amica. È una Alessia. Conoscono tutti, Alessia, la saluto, gli faccio tanti auguri a lei, Michele. È diventato la realtà un ritrovo è che anche Guendalina, transessuale, faceva diciamo la escort, le marchette, faceva sostanzialmente la prostituta fino a poco tempo fa, ha smesso. Parenzo, dovresti essere contento tu. Ha smesso di, sì, fare, infatti, perché mi ha attaccata l'altra volta e quindi ho smesso di fare, diciamo, la escort. Non per questo, no, non è che perché ti ha attaccato Parenzo hai smesso, sarebbe, no, anche... vabbè, però disse poverino, che poverina, che tristezza, insomma, però alla fine comunque ho smesso di fare queste cose. Ha smesso di fare la escort ed era una cosa molto molto, come dire, no, che ti fruttava un sacco di soldi, cara Guendalina, perché andavi a botte da 3-400 mila, no? O no, sbaglio? Certo, ma sì, vabbè, ma perché quando uno sta in difficoltà e quando uno non sa dove iniziare, ovviamente non c'è l'aiuto di nessuno, sì, e ti vengono, certo, chiuse tante porte in faccia. Beh, è adesso normale che quella è l'unica soluzione, anche perché ancora tutt'oggi, nonostante comunque mi sono sistemata, sì, e mi sono buttata il passato alle spalle, però comunque tutt'oggi le porte in faccia te le chiudono. Eh beh, non c'è dubbio, perché ma tu hai intenzione di farti l'operazione oppure no, cara Guendalina? Certo, certo, nel prossimo la fatto, perché quindi la notizia, caro Parenzo, fermate le rotative a questo punto, veramente fermate, che la signora Rodriguez si è sposata nel frattempo. Oh, si è sposata, sì, con, sì, un signore che io ho visto su internet, che è un signore, è napoletano, un signore napoletano, non è Roberto Napoletano, no, non è Roberto, anni, non ho capito, non è Napoletano, signore, io, però sta 33 quello anni, conosco, io conosco Roberto, 33 quindi, anni, sì, invece tu hai, Guendalina, scusami, io sono a 20, a 20 anni, ma scusa, a questo tuo marito non gli piace l'uccello? Ecco. No, assolutamente no. Cioè, però non ti piace la sua parte, la tua parte maschile? Non, no, gli piace? No, vabbè, ma lui, diciamo che lui comunque mi conosce, come mi ama per ciò che sono, e poi soprattutto, certo, mi ama per altre cose. Cioè, non è ti ama mi... perché c'hai l'uccello, questo ma è la, no, la... Ecco, ma non è nemmeno vero, quindi... Cioè, in che senso non è vero? Non ho capito. Perché non ti funziona? Perché non ti funziona? No, vabbè, ma quando uno decide di fare un percorso di transizione, uno ovviamente prende degli ormoni. Ah, e tu ovviamente... dici che ormai è una specie di vegetale quella roba lì, una, sì, è una cosa informe, diciamo. Sì, è solo pipì. Amica mia, ho capito, ma Parenzo, tu che fai, sbeffeggi? Cioè, dovresti rispettare, devi rispettare questo percorso. No, ma io rispetto la signorina, la storia, questo oggetto qui davanti, che praticamente è ormai un critico i dettagli che ma tu i dettagli poni sono quelli della vita reale, all'uditorio. Tra l'altro, ecco, voglio dirvi una cosa, ragazzi. Poco tempo fa mi è arrivata una cosa, aiuto, dalla procura, non mi ricordo di dove, di Legnano. La procura di Catania. No, di Legnano. Di Legnano, la quale mi dice: guardate, ci dovete dare una conversazione radiofonica che c'è stata tra voi e la signora Guendalina Rodriguez. Se ci fornite anche, diciamo, i dettagli di questa signora. Procedimento, no, purtroppo, per fortuna. fortuna, no, non è successo nulla. La signora, quanti ne abbiamo noi in corso? Non lo so, una trentina. La signora, no, la signora Rodriguez disse in a questi microfoni che lei sostanzialmente era stata con un giocatore di colore del Milan, il signor Niang. Non disse all'inizio il nome qui ai nostri microfoni, no. Poi, no, questa la presero con te, Giuseppe, che penso che tu non senti assolutamente nulla, perché diciamo che noi non avevamo fatto né il nome né niente. Tanto che, scusami, vabbè, se tu avevi detto un attaccante nero del Milan. Vabbè, quello, io l'avevo fatto capire, l'avevo lasciato un po' lì. Diciamo che è stato, purtroppo è stato molto a un fattore mediatico di alcuni giornalisti che ho preso anche i provvedimenti, però lasciamo fare, poi sai. Vabbè, io non ho capito. Poi tu però a un certo punto hai fatto un tweet, hai detto, è più sì, è vero, sì, io sono stata con Niang ed è più donna di me. Sì, là l'ho fatto io, assolutamente, l'ho fatto io. Ma scusa, non hai passato dei guai per questa cosa? È per questo che si è aperto questo procedimento? Allora, hanno chiuso tutto? Sì, hanno chiuso tutto perché diciamo che io avevo degli admin che mi gestiscono a volte i miei profili social e quindi è stato fatto questo tweet, che questo tweet io l'ho fatto dopo essere attaccata da molti tifosi del Milan. Ah, addirittura, che ti accusavano di avere praticamente mandato via il signor Niang. Hanno fatto, sì, assolutamente. Ma che, che volevi dire quando hai detto che è più femmina di me? Cioè non ho capito, che c'ha il signor Niang? No, vabbè, volevo dire che insomma, tipo, ci sta anche come il caso la Poelcan, fanno oddio, sono andato con una trans, invece assolutamente fanno oddio, sono andato con una trans, ma non è vero perché molte persone, tu sai, che dicono. Ma scusa, che non ho capito, alla fine con te che cosa era, passivo o attivo, zio Niang? Ma che ne so. Niente, ma... Beh, adesso... Che ne so? Ma non lo so. A questo punto si può dire, ma è vero che è andato via da Milano per colpa tua alla fine? Certo, mi hanno detto che sono andato dal Milan per colpa mia, cioè una cosa assurda. Ma io tuttora, ci sono dei Twitter che mi ammazzano, i tifosi del Milan. Pensa, una volta io vivo a Milano e sono qui, zona Navigli, diciamo, da tutta vivo qui con mio marito. A volte vado in giro, fanno, ah, ma tu sei... tipo nelle metro, fanno, oddio, quella è stata con Niang. Tipo, ci stanno certi che tipo dicono, ah, ma non ti vergogni di aver rovinato una carriera calcistica. Ma è vero che l'hanno mandato via dal Milan per questo fatto? Causa o no? Tua. Non, cioè, lo so, per comportamenti, guarda, non lo scorretti, so. Diciamo. Io non posso solo dire che il giudice ha ritirato il caso. Comunque, com'era a letto, signor Niang? Ah, no, vabbè, non lo so. Dai, dimmelo com'era. Risponda così, non rispondo a domande che non riguardano la partita. Altre domande? No, va... No, vabbè, no, vabbè, diciamo che non sapeva fare gol, dai. Non sapeva fare gol, cioè... Che vuol dire fuori di metà? Scarso, scusa. Scarso, cioè, era scarso a letto, scarso. Questo è... Dai, ma siete cattivelli. Ma che vuol dire, no? Poi, che vuol dire fare più donna di me? Non capisco, cioè, era... Cioè, nel senso che proprio non era capace... Ah, vabbè, ma perché ci sono molti uomini che apparentemente sono uomini e poi quando magari stanno nella trasgressione, magari non stanno proprio... nell'indole di loro, magari alzano un po' il gomitino, nel senso bevono un bicchiere di troppo, beveva signor Niang, oppure non lo so, questo non lo so, diciamo che dicendo. È capitato tutto per caso, però dai, è stata una bella parentesi che tra l'altro Gwendalina non fa più tra l'altro lui che ha fatto? Lui non lo so, lui mi ha inviato un messaggio, lo sai? Mi ha inviato un messaggio sul mio profilo privato Twitter e mi ha scritto: ti devi vergognare di dire queste cose in giro e soprattutto ti farò denunciare dal mio manager. E io non ho avuto botta e risposta per rispondere perché ho cambiato numero. Però Gwendalina, ha fatto bene a dirlo stasera. Allora, si è fatto bene, benissimo, molto bene. Allora, dobbiamo chiudere. Devo dire solamente una cosa: signora Gwendalina Rodriguez non fa più la escort, ma. Come cazzo fai a campare? Scusa, senza fare. No, vabbè, sono marito, lavora, fa un lavoro onesto, sto a casa, faccio la casalinga. Bello, un bel quadro, questo è buono. Ragazzi, ci sentiamo lunedì. Gwendalì, ti abbraccio, stai bene. Un raccomando. Ciao a tutti, arrivederci, signora. Arrivederci. Giuseppe da Trento, amico mio, che volevi dire? Dimmi una cosa, che qui mi stanno dicendo che devo chiudere, a me non me ne frega un cazzo. Ragazzi, dimmi una frase, poi ti richiamo lunedì. Dimmi una frase, Zuccaro. Io leggo qua. Zuccaro va ringraziato. Bravo, amico mio, bravo. Va ringraziato, Zuccaro. Io lo amo già questo magistrato di Catania. Zucchero lo amo. Va a ringraziare. Zucchero è il cantante. Zucchero Fornaciari. Ciao. Papà sta andando a trans. Papà sta andando a trans. Ho già l'appuntamento. Tu mi stai trattenendo. Papà sta andando a trans. Papà sta andando a trans. Ti porto, lo prometto. Quando ci avrai il pizzetto, così andrai a trans. Anche tu andrai a trans. Finalmente andrai a trans col papà. Arrivederci.